Allora cominciamo la lettura del sofista. Teodoro, secondo quanto eravamo intesi ieri, o Socrate, veniamo qui precisi. Siamo noi che conduciamo ospite un amico di terre lontane, costui. È nato ad Elea e appartiene alla scuola di Parmenide di Zenone. Oh, un vero filosofo. Socrate, Teodoro, tu forse mi conduci non un amico, ma un qualche iddio, e come canta Omero, non te ne sei accorto. Omero dice che gli dei in genere, ma in modo particolare il dio che protegge gli ospiti, amano farsi compagni alle oneste persone e ritenute tali secondo giusta ragione. Osservano così le umane azioni, se ribelle e violente, oppur buone e ossequenti alle leggi. E forse il Signore che viene qui con te è un essere superiore. Certo, giunge per rendersi conto di noi e confutare la nostra inesperienza nella filosofica discussione. Certo, un dio nell'arte di disputare. Teodoro, Socrate, non in questo modo si comporta il mio amico. Un senso di misura profonda lo guida, e non come questa gente ansiosa soltanto di sottili disputazioni. Anzi, non direi certo che il mio amico sia un dio, ma un uomo divino sì, e come? Vedi, è mia opinione che convenga dare questo appellativo ai filosofi. Davvero gente divina sono i filosofi. Socrate, sì, amico mio, hai perfettamente ragione, ma vedi. Forse è un po' difficile a dirla tra noi riconoscere questo tipo di persone, non meno difficile di quando in mezzo agli uomini si vogliano riconoscere gli dèi. Non c'è dubbio, questi filosofi per le città si aggirano, ma siccome la gente non ne conosce la vera entità, se li raffigura sotto gli aspetti più diversi, e intendo non i filosofi falsi, ma quelli proprio veri che, da sublime altezza, osservano giù e guardano la vita degli uomini in terra. Avviene così che agli uni sembrano gente di nessuna importanza, agli altri invece di straordinario valore. Aggiungi poi che talora appaiono sotto le sembianze di uomini politici, talora di sofisti. Vi sono persino certi casi in cui destano l'impressione di gente dominata da strana e profonda follia. Oh, ma da questo tuo amico mi piacerebbe sapere, seppur non gli è sgradito, quale nome dalle sue parti si dia a tutto questo e in quale considerazione siano tenuti questi personaggi. Teodoro, quali? Socrate, il sofista, il politico, il filosofo. Teodoro, ma cosa vuoi precisamente sapere e qual difficoltà ti fece proporre domanda? Socrate, la seguente. Si ritiene forse che questi tre nomi siano unica cosa? Due forse? Oppure a quella guisa che i nomi sono tre, distinguendo con pari numero anche i tipi caratteristici, si adattò singolarmente a ciascun tipo un nome particolare? Teodoro, ma nulla, come credo io, impedisce che lui stesso ci dia una qualche spiegazione. Che ne dici tu, amico, ospite? Così appunto, Teodoro, nulla effettivamente lo impedisce, e non è nemmeno difficile dire che dalle mie parti si ritiene che tre siano i caratteristici tipi. Tuttavia, distinguere esattamente cosa ci sia in ciascuno non è impresa né piccola né facile. Teodoro, guarda un po', Socrate, la strana combinazione. Prima di arrivare qui lo stavamo interrogando e l'argomento che hai toccato ora è molto simile al nostro ed egli si schermiva adoperando con noi il medesimo argomento ora adoperato con te. Del resto ammette di aver assistito a corsi numerosi sulla questione e di serbarne vivo il ricordo. Socrate, e allora, amico di terre lontane, non ci dovresti negare questo primo favore di cui ti chiediamo. Una sola cosa hai da dire. Quali sono le tue abitudini? Preferisci per conto tuo, con lungo discorso e continuo, esporre il problema dicendo quello che ti sembra più opportuno per la dimostrazione, oppure vuoi procedere per mezzo di interrogazioni? Quest'ultimo sistema, anni fa, quando ero ancora giovane, è stato eseguito da Parmenide per trattare una stupenda questione filosofica. Ho partecipato pure io a quel colloquio. Oh, avevo pochi anni e Parmenide era già vegliardo in quel tempo. Ospite, vedi Socrate. Condurre la discussione con l'aiuto di interlocutore che non si ribelli e che dolcemente segua, rivolgere insomma la parola ad un altro, è cosa più facile. Ma l'interlocutore deve essere come dico io, se no, meglio parlare per conto proprio. Socrate, allora puoi sceglierti fra i presenti chi meglio credi. Tutti certo con docilità saranno pronti ad ascoltarti. Anzi, se vuoi badare al mio consiglio, scegli uno di questi ragazzi, Teteto per esempio, o chi meglio ti piace. Ospite, caro Socrate, mi sono appena incontrato con voi e non mi piace trascurare il colloquio con brevi tratti, parola a parola. Per e mettermi a svolgere lungo e continuo sermone con me stesso, come pure svolgere una lunga dimostrazione oratoria rivolgendomi a qualche avversario. È un fatto del resto, il problema ora proposto non è certo da poco, come ci si potrebbe aspettare, quando se ne espone l'enunciato con semplice domanda. Oh, è questione che richiede lunghissimo svolgimento. D'altra parte, non mostrarmi compiacente con te e con tutti costoro, specialmente dopo le gentili tue espressioni, mi pare cosa poco simpatica e poco educata. In quanto poi a te, Teto, che dovrebbe essere il mio interlocutore, lo accetto ben contento. Ho già avuto qualche discussione con questo ragazzo e tu stesso mi consigli proprio lui. Te, Teto, e allora va bene così. E come Socrate disse, farai a tutti cosa gradita. Ospite, e su questo punto pare non c'è parola da aggiungere, o te, Teto, perché ormai con te soltanto dovrà svolgersi il colloquio, ma se avrai un po' di noia per fatica dopo una lunga discussione, non devi darne la colpa a me, bensì a questi tuoi amici. Te, Teto, oh, non credo di dovermi stancare, per ora almeno, e nel caso potremmo prendere in aiuto Socrate qui. L'omonimo di Socrate è mio coetaneo e compagno di palestra. Ha partecipato più volte con me a molti faticosi esercizi del genere. Certo, non manca d'allenamento. Ospite, benissimo. Del resto potrei decidere procedendo alla discussione. Devi dunque indagare in comune con me ora, cominciando dal principio. In primo luogo, come pare a me, dal sofista. Cerca dunque di esprimere con una definizione che cosa è il sofista. In questo momento, io e te, sul sofista, abbiamo comune soltanto il nome. La verità del fatto, secondo la quale ciascuno per conto suo lo chiama con un nome, si riduce a nozione che ciascuno ha per proprio conto, una nozione personale. Bisognerebbe invece, in rapporto ad ogni cosa, mettersi d'accordo sul fatto in se stesso per mezzo di una definizione, piuttosto che prescindendo da questa, basarsi sul nome soltanto. D'altra parte, la razza su cui abbiamo intenzione di esperire, ora ricerca, è difficile da cogliere nella sua esseità, e intendo appunto il sofista. D'altra parte ancora, se gli argomenti su cui si intende svolgere attenta e faticosa opera di indagine sono molto vasti, è ammesso da tutti e fin da tempi immemorabili, che convenga prima svolgere la propria attività su similitudini più semplici e più facili. Si verrà poi in un secondo momento agli argomenti sommi. In conseguenza, ora, o Teto, per conto mio, faccio questa proposta anche a noi due. Siamo in realtà convinti che il genere del sofista sia pesante e difficile da seguire, onde prima è meglio procedere a una prova del metodo di ricerca su qualche più facile soggetto. Tutto questo, se non hai modo di consigliarmi, qualche più comodo tramite. Teto, non ne ho. Ospite, vorresti dunque che, perseguendo l'indagine su qualche più comune argomento, provassimo a porre questa come esemplare dell'indagine maggiore? Te, Teto, sì, ospite, quale argomento potremmo dunque proporre a guisa di introduzione? Un argomento facile a comprendersi, eppur non ponderoso, che non richieda tuttavia uno sviluppo di ragionamento meno complesso degli argomenti maggiori. Per esempio, il pescatore con la lenza. Non lo credi argomenti a tutti noto e non richiede certo una laboriosa trattazione. Così, disse Teto. Ospite, spero comunque che questo pescatore ci possa offrire metodo di indagine e discussione non inopportuno al nostro scopo. Teto, andrebbe benissimo. Ospite, su via, cominciamone la trattazione. E tu dimmi, dovremmo ritenere che questo nostro uomo sia in possesso di una certa abilità, di un mestiere, insomma, oppure dovremmo ritenere che non abbia arte alcuna? Ha forse qualche altra capacità diversa? Te, Teto, eh no. Privo non certo d'una sua particolare abilità. Ospite, tuttavia ogni umana abilità, in quanto attitudine di mestiere o di arte, si divide in due specie. Te, Teto, quali? Ospite, agricoltura e in genere le arti che si prefiggono quale meta provvedere ai bisogni della vita, come pure cose composte e modellate, cose che si chiamano utensili, e insieme arti di imitazione. Tutti questi tre tipi con molta esattezza si potrebbero chiamare con un unico nome. Teto, come dici, con quale nome? Ospite, qualunque cosa che prima non era e che poi viene attuata nel regno della realtà, diciamo che viene fatta. L'operatore invece diciamo che fa. Teto, giustamente, ospite, e tutti gli esempi da noi ora esposti indicavano potenza a ciò rivolta. Teto, già, è un fatto, ospite. Allora questa specie di abilità che si esprime in atto di mestiere di arti dobbiamo chiamarla con parola arte che produce. Te, Teto, sia pure. Ospite, ma c'è poi, successiva, la specie dell'apprendere e del conoscere, la specie dell'accumulare denari, del lottare, del cacciare. È un fatto, nessuna produce qualche cosa, soltanto gli uomini, con parole o con azioni, si impadroniscono di cose esistenti e già prodotte. Vi sono casi invece in cui cercano di impedire che altri se ne impadronisca e attraverso queste attività, che vengono a costituire nel loro insieme altrettante parti, risultano sembianze d'unica arte che può dirsi arte d'acquisto. Te, Teto, sì, risultano davvero. Ospite. Dunque, tutte le arti sono d'acquisto o di produzione? In quale delle due specie porremo l'arte di pescare con la lenza? Te, Teto, evidente, tra quelle d'acquisto. Ospite, e non vi sono forse due specie minori di questa maggiore comprendente arti d'acquisto? La prima, di chi spontaneamente procede a scambi con chi pure spontaneamente attende a quest'opera, che può svolgersi per mezzo di doni, di mercedi, di remunerazioni. L'altra specie, invece, interamente ha quale meta impadronirsi di qualche cosa, o per mezzo d'azioni o per mezzo di parola. Le diremo arti di costrizione. Te, Teto, par proprio così, da quanto almeno si disse. Ospite, senti allora, non dovremo forse dividere in due queste arti di costrizione? Te, Teto, in qual modo? Ospite, da una parte l'intero tipo di lotta che si fa palesemente, da un'altra invece quell'azione costrittiva che si fa intera con insidie di nascosto. Lo diremo tipo pertinente alla caccia. Te, Teto, sì. Ospite, e del resto sarebbe assurdo non dividere pure in due sezioni questo tipo riferentesi alla caccia. Te, Teto, dimmi per qual modo, ospite, si deve dividere la sezione del genere inanimato e del genere animato. Te, Teto, certo, ammesso che ci sia l'uno e l'altro genere. Ospite, e come non ci dovrebbero essere? Per conto nostro, intanto, lasceremo andare la sezione del genere inanimato, che non ha proprio appellativo, eccettuate alcune specialità nell'arte del palombaro e qualche altra attività secondaria. L'altra sezione, invece, si dovrà chiamarla caccia d'esseri viventi, in quanto procede appunto alla caccia di tali esseri. Te, Teto, sia pure. Ospite, e non si potrà forse dire in piena giustizia che duplice la specie di questa caccia rivolta agli esseri viventi? Da una parte la specie minore, che procede alla caccia di animali terrestri, distinta in molte altre specie e in molti nomi, rivolta appunto a questo tipo di animali. L'altra invece degli animali natanti in genere, è precisamente la caccia ad animali natanti in un fluido. Te, Teto, indubbiamente. Ospite, e tuttavia vediamo che la moltitudine di animali natanti in un fluido è costituita in parte di alati, in parte di acquatici. Te, Teto, come no? Ospite, e la caccia del tipo alato si chiama nella sua totalità uccellagione. Te, Teto, si chiama appunto così. Ospite, invece la caccia degli animali acquatici complessivamente si chiama pesca. Te, Teto, sì. Ospite, senti adesso, quest'ultimo tipo di caccia non lo si potrebbe forse dividere in due grandissime sezioni? Te, Teto, quali? Ospite, secondo che, da una parte, si compie la caccia per mezzo di reti che ricingono e rinserrano il pesce, da un'altra parte invece cercando di battere e di colpire la preda. Te, Teto, come intendi? Secondo quale criterio hai compiuto questa divisione? Ospite, quanto racchiude e trattiene con un impedimento è naturale si debba chiamare un recinto chiuso. Te, Teto, certo. Ospite, e le nasse, le reti, i lacci, i panieri e altri simili strumenti, credi di poterli chiamare con qualche altro nome che non sia strumenti di chiusura? Te, Teto, nessun altro nome. Ospite, e allora questa specie la dovremmo chiamare caccia con recinti di chiusura o un nome simile. Te, Teto, sì. Ospite, invece quella che si svolge con metodi diversi dai precedenti, per mezzo di colpi e di battiture, in quanto si adoperano ami e fiocine, è necessario ora chiamarla con una sola parola, caccia di percussione. O che ci sia, Te, Teto, un nome migliore? Te, Teto, lasciamo andare il nome, basta anche questo. Ospite, e questa caccia di percussione avviene in parte, credo, di notte al chiaro d'un lume e suole essere chiamata, da chi ne fa professione, pesca col lume, te dedo, senza dubbio. Ospite, ma la pesca che si fa in pieno giorno, considerando che le fiocine a tre punte hanno gli uncini, si chiama nella sua totalità pesca con gli uncini. Te dedo, sicuro, si dice proprio così. Ospite, e va bene, ma quel tipo di caccia che si svolge con la percussione per mezzo di uncini si può compiere dall'alto in basso, in quanto in tal modo si fa uso della fiocina, donde appunto il nome pesca con la fiocina. Te dedo, così effettivamente la chiamano. Ospite, quanto rimane costituisce un unico tipo soltanto. Te dedo, quale tipo? Ospite, il tipo del colpo a direzione contraria, e questo colpo si fa con l'amo. I pesci non vengono colpiti in qualsiasi parte del corpo, come con la fiocina, bensì intorno al capo soltanto. Anzi, ogni volta viene colpita la bocca del pesce che fu pescato. E questo pesce, di sotto in su, per via contraria alla precedente, viene strappato in su per mezzo di bastoni e di canne. E quale diremo, o te teto, il particolare appellativo di quest'arte? Te teto, mi par proprio che sia completa ormai l'indagine di quanto ci siamo proposti poco fa. Ospite, allora concludiamo. In questo momento, sulla pesca con la lenza, tu e io non solo ci siamo trovati d'accordo in rapporto al nome, ma abbiamo anche potuto cogliere pienamente la definizione sul fatto vero e proprio. Vedi, l'intero atto dell'arte per una sua metà ha carattere d'acquisto. Una metà poi del tipo d'acquisto contiene le arti di costrizione. Dell'arte di costrizione una metà è costituita dall'arte della caccia. Una parte della caccia costituisce la caccia ad esseri viventi. La caccia ad esseri viventi ha una sua metà che persegue gli animali natanti in un fluido. E questa caccia ad animali natanti in un fluido, nella sezione inferiore, è nel suo complesso arte piscatoria. E di quest'arte della pesca, una parte si svolge con metodi di percussione, mentre dell'arte di percussione una parte si svolge con gli uncini. Di quest'arte con gli uncini, finalmente una parte mena di sotto in su il colpo strappando in su. Da quest'arte, appunto, cercando di esprimerne col nome l'operazione, è derivato l'appellativo di ciò che ora cerchiamo, la pesca con la lenza. Te teto, la dimostrazione è veramente completa. Ospite, su via dunque, seguendo questo esemplare, cerchiamo di trovare che cosa sia il sofista. Te teto, senza dubbio. Ospite, e la prima indagine nostra era stata veramente questa: se il pescatore con la lenza si dovesse considerare uomo che non ha abilità alcuna, uomo qualsiasi, oppure se un'abilità egli possiede. Te teto, sì. Ospite, e ora venendo a questo nostro personaggio, te teto, è destituito forse di ogni capacità e di ogni abilità? Oppure dobbiamo in ogni modo attribuirgli una competenza e farne un vero sofista, cioè uno che sa? Te teto, un incompetente? No, di certo. Capisco quanto stai dicendo. Deve essere veramente un sapientone chi porta questo nome di sofista. Ospite, in conseguenza si tratta di stabilire che quest'uomo possiede una certa abilità, un'arte, insomma. Te teto, e quale sarà quest'arte? Ospite, ma guarda, non ci siamo accorti dell'uomo affine a questo nostro uomo. Te teto, quale uomo e di chi affine? Ospite, il cacciatore alla lenza, affine e parente del sofista. Te teto, come mai? Ospite, tutti e due mi si dimostrano veri e propri cacciatori. Te teto, e il secondo, cacciatore di quale fiera? In quanto all'altro, abbiamo già detto l'oggetto della sua caccia. Ospite, ma sì, abbiamo diviso poco fa la caccia nella sua totalità, e distinguevamo una parte rivolta ad esseri natanti in un fluido, l'altra agli esseri che camminano sul solido. Te teto, sì. Ospite, e si continuò suddividendo la parte dei natanti nel fluido acqueo, la parte invece rivolta ad esseri camminanti sul solido l'abbiamo lasciata senza divisione, soltanto la si disse molteplice di specie varie. Te teto, certamente. Ospite, fino a questo punto dunque Sofista e cacciatore con lenza procedono di conserva, provenendo ambedue dalla specie dell'arte che ha carattere d'acquisto. Teteto, par di sì. Ospite, la divergenza tra questi due personaggi comincia dalla caccia ad esseri viventi, perché l'uno si volge a cacciare sul mare, sui fiumi, sulle paludi e cerca di prendere gli animali che vivono in questi luoghi. Teteto, già, e l'altro? Ospite, l'altro si volge verso la terra solida, verso certi cotali fiumi assai diversi e speciali, inesausti prati, per così dire, di ricchezza e di gioventù, e là si dirige per impadronirsi d'animali che ivi si nutrono. Teteto, come dici? Ospite, due larghissime divisioni si possono fare a proposito di cacce d'animali che camminano sul solido. Teteto, dimmi l'una e l'altra. Ospite, l'una rivolta ad animali domestici, l'altra ad animali selvaggi. Teteto, e c'è davvero una caccia anche di animali domestici? Ospite, sì, dato che l'uomo è animale domestico e puoi scegliere la soluzione che ti piace meglio, cioè che non esista un animale domestico oppure che altri animali sono domestici e l'uomo invece è selvatico, oppure puoi dire che l'uomo è domestico ma che non esiste nessun tipo di caccia rivolta ad uomini. Di queste soluzioni mi devi indicare quella che più ti va, genio. Teteto, ebbene, che noi siamo un animale domestico, così pure affermo che si può fare una caccia ad uomini. Ospite, allora dividiamo in due anche questa caccia ad animali domestici. Teteto, secondo quale criterio? Ospite, prima la caccia dei predoni, le razzie per far schiavi, le violenze dei tiranni e in genere l'arte della guerra. Tutte queste mettiamole da parte in un'unica specie, caccia accompagnata da violenza. Teteto, va bene. Ospite, dell'avvocatura, dell'oratoria politica, delle discussioni private, formeremo invece un'unità complessa e chiameremo il tutto col nome d'unica arte, arte di persuasione. Teteto, giusto. Ospite, e di quest'arte di persuasione diciamo dunque le due specie minori. Teteto, quali? Ospite, una s'attua nella vita privata, l'altra nella vita pubblica. Teteto, ebbene, ammettiamo l'una e l'altra. Ospite, e non è forse vero che di questa caccia nella vita privata una specie ha per sua meta il lucro, l'altra invece si svolge per mezzo di doni? Teteto, non capisco. Ospite, evidentemente non hai prestato ancora attenzione alla caccia che fanno gli innamorati. Teteto, e che cosa avrei visto? Ospite, che offrono doni alle persone di cui vanno a caccia. Teteto, hai ragione. Ospite, ecco dunque la specie dell'arte d'amore. Teteto, indubbiamente. Ospite, invece la specie avente per sua meta il lucro presenta due sezioni. L'una trova modo di insinuarsi per mezzo di dolce conversazione, e sua esca è interamente fatta di lusinghe, quale mercede soltanto il modo di farsi mantenere. Ebbene, tutti potremo dire, come credo, che si tratta di un'arte adulatoria o di lusinga. Teteto, come no? Ospite, la sezione invece che dichiara di intrattenere la gente con scopo di perseguir virtù, che, quale mercede, va cercando soltanto denaro, non sarà forse opportuno chiamarla invece con qualche altro nome? Teteto, come no? Ospite, e quale sarà questo nome? Provati a dirlo. Teteto, oh, è chiaro, mi par proprio che abbiamo scovato il nostro sofista, e dicendo questo mi sembra di chiamarlo con un nome che gli conviene. Ospite, ammessa questa classificazione, o Teteto, come pare, diremo così. V'è un'arte d'acquisto, ne fa parte la caccia contro esseri viventi, i quali dimorano sulla terra. Una caccia che si volge contro uomini, avente quale scopo la persuasione e che svolge ogni sua attività in circoli di vita privata per acquistare una mercede, concretantesi in uno scambio di moneta. E questa attività fornisce un'apparenza d'educazione. Una caccia, insomma, di giovani ricchi e famosi. Ebbene, tutta questa attività, come parola suggerisce, dobbiamo chiamarla sofistica. Teteto, certamente. E vediamo un po' anche in quest'altro modo. In realtà la cosa che cerchiamo Non è in relazione con arte semplice e da poco, bensì complicata assai, anzi guarda, da quello che abbiamo già detto, si delinea la possibilità che non si tratti di ciò che stiamo dicendo, ma che il nostro sofista sia qualche altra cosa diversa. Teteto, come mai? Ospite, le due specie minori dell'arte d'acquisto erano, ricordi bene, quella relativa alla caccia e quella relativa allo scambio. Teteto, era proprio così? Ospite, allora di quest'arte di scambio diciamo su via due tipi, e l'uno sarà caratterizzato da uno scambio di doni, l'altro da scambi commerciali. Teteto, sia come detto. Ospite, e questa sezione caratterizzata da scambi commerciali diremo che va divisa in due parti. In una la vendita diretta da parte del produttore, l'altra comprende il traffico e lo scambio di cose prodotte da altri. Certamente, senti un po'. Di quest'arte di traffico, una mezza sezione svolge i suoi scambi per entro l'ambito di una singola città e costituisce il commercio minuto. Sì, ma c'è invece quella che traffica con un processo di compra e di vendita tra uno stato e un altro, attività di grandi scambi commerciali. Teteto, perché no? Ospite, e ci siamo senza dubbio accorti che una parte di questa grande attività di scambi commerciali vende e scambia con moneta ciò di cui il corpo si serve e si nutre, un'altra parte invece ciò di cui si serve e si nutre l'anima. Teteto, come intendi questo punto? Ospite, è questa attività relativa all'anima che forse ti sembra oscura, perché invece l'altra attività certo la comprendiamo bene. Teteto, sì. Ospite, consideriamo dunque le produzioni delle arti belle in genere. Trasportate d'una in altra città, in una sono comperate, in altra invece importate e vendute, e opere di pittura e oggetti di illusione e altre opere d'ogni genere si importano e si vendono tanto per divertimento, come anche per scopi seri. Ebbene, tutto ciò, non meno che la vendita di cibi e di bevande, rende la persona importatrice e venditrice ben degna dell'appellativo di mercante. Teteto, hai perfettamente ragione. Ospite, in conseguenza, anche chi di città in città fa incetta di cognizioni e attende ad opera di scambio per moneta, lo chiamerei con lo stesso nome. Teteto, senza dubbio. Ospite. E allora, una sezione in questo commercio di spirituali attività la si potrebbe chiamare assai opportunamente ostentativa o esibitiva. L'altra, invece, richiede un nome non meno strano del precedente, ma essendo la cosa una vendita di cognizioni, il nome deve pure avere qualche similitudine con la cosa significata. Teteto, certamente, ospite. Ebbene, la chiameremo spaccio all'ingrosso di cognizioni. E una sua sezione, in cui si trattano cognizioni relative alle arti in genere, la chiameremo con un nome. L'altra sezione, che ha rapporto in genere con la virtù, la distingueremo con un nome diverso. Andrebbe bene dunque da una parte il nome di spaccio d'arti. In quanto all'altra, prova tu stesso a dire il nome. Teteto, e quale altro nome potrei dirti? Tutti sarebbero inopportuni e discordanti. C'è unicamente la cosa di cui stiamo facendo ricerca, il tipo sofistico. Ospite, nessun altro. Su via dunque, ricapitoliamo questa genealogia dicendo: quella sezione dell'arte d'acquisto, suscettiva di scambio a carattere commerciale, d'un atto di mercatura in grande stile, quando questo commercio si svolga nel campo di spirituali attività e siano sua merce discorsi e cognizioni di virtù, ebbene, eccoti per la seconda volta genealogia dell'arte sofistica. Teteto, molto bene. Ospite, consideriamo ora un terzo aspetto del sofista. Sono convinto che chiameresti con lo stesso nome di poco fa anche chi si proponesse di campar la vita prendendo dimora nella propria città, e certe cognizioni le andasse acquistando, altre invece ne escogitasse per conto suo sui medesimi argomenti, ponendo il tutto quindi in vendita. Teteto, certamente, perché non lo dovrei chiamare con lo stesso nome? Ospite, appare chiaro dunque che tu chiamerai sempre, come pare, sofistica quella sezione dell'arte di acquisto che procede a scambi commerciali, tanto in grande stile quanto anche piccoli scambi e minuti. Nell'uno e nell'altro caso tutto ciò che si risolve in uno spaccio di nozioni sugli argomenti di cui stiamo dicendo. Teteto, necessariamente, bisogna pur tener dietro al filo del discorso. Ospite, ora cerchiamo ancora. Forse la specie che stiamo perseguendo ha qualche relazione di somiglianza con un fatto di questo genere. Quale? Dell'arte d'acquisto avevamo posto una sezione pertinente alla lotta. Te detto, già, è proprio così. Ospite, non sarà dunque contrario al nostro metodo dividerla in due sezioni. Devi dire quali siano. Ospite, ponendo una sezione con carattere di emulazione, l'altra di contenzione. Tedeto, va bene. Ospite, di questa sezione pugnace e violenta, parte si svolge per mezzo di uno sforzo di corpi contro corpi. Naturale e conveniente quindi distinguerla con nome che esprima violenza. Tedeto, sì. Ospite, invece uno sforzo di parola contro parola. Come lo si potrebbe chiamare, Tedeto? Se non sforzo di contestazione. Teteto, nessun altro nome. Ospite, ma bisogna ammettere che la contestazione è duplice. Teteto, come? Ospite, in quanto la contestazione si svolge in pubblico con lunghi discorsi, rispondendo ad altrettanto lunghi discorsi dell'avversario su questioni di giustizia o di ingiustizia. In questo caso si avrà la specie giudiziaria. Teteto, sì. Ospite, invece la sezione che si fonda su domande e su risposte spezzettate di corta estensione, certo non siamo soliti chiamarla con altro nome se non con quello di contraddizione antilogica, di sottile disputazione. Teteto, nessun altro. Ospite, e questo sforzo di sottile disputazione può svolgersi a proposito di contratti quando si discute su qualche interesse, e allora la sua prassi si svolge a caso e senza regola alcuna. Tale specie minore deve essere individuata, dato che parola senz'altro l'ha riconosciuta quale entità particolare, ma non ci è stato tramandato un nome singolo dai nostri predecessori e non vale nemmeno la pena che da noi ora le sia attribuito un nome. Teteto, hai ragione, le singole attività che la specie comprende sono troppo minute e reciprocamente diverse. Ospite, c'è invece la sezione che persegue regole e metodi precisi. Si discute sui concetti astratti di giustizia e di ingiustizia, e in genere su altri concetti. A queste discussioni siamo soliti dare un nome, discussioni eristiche. Teteto, come no? Ospite, e della specie eristica una parte è rovina di averi e di sostanze, un'altra invece suscettiva di far guadagnare l'una cosa e l'altra. Teteto, indubbiamente. Ospite, e allora dobbiamo cercare di dire il nome preciso dell'una e dell'altra parte. Credo che quando si trascurano le cure domestiche per il piacere di questi colloqui, secondo la mia opinione, questa parte non ha altro nome che quello di loquacità. Teteto, senza dubbio, si dice pressappoco così. Ospite. Poi c'è l'opposto di questa attività, quella in cui si persegue il guadagno per mezzo di simili private dispute. Cerca di dirne a tua volta il nome. Teteto, certo, se ne dicessi un altro, cadrei in errore. Ci si presenta dinanzi ancora per la quarta volta mirabolante personaggio, il sofista, colui al quale stiamo dando la caccia. Ospite, parola insomma, con giro forse un po' lungo, ce l'ha ben dimostrato in questo momento. Il sofista, né più né meno, è questo: stirpe che persegue il guadagno, pertinente ad una specie eristica d'abilità. E questa è minore di un'altra, più estesa. Contraddizione antilogica di sottile disputazione, a sua volta contenuta nella specie di contestazione, contenuta finalmente nella specie esprimente lotta e contrasto, tutte contenute in quella massimamente estesa dell'arte d'acquisto. Teteto, indubbiamente. Procediamo dunque alla seconda parte della lettura integrale del sofista. Ricordiamo che la conversazione in questo momento, come del resto in tutto poi il corso del dialogo, si svolge tra te, Teto, e un ospite proveniente da Elea, e quindi rappresentante della filosofia eleatica. Quindi ricominciamo. Ospite, non vedi dunque, è proprio vero ciò che si dice, questa nostra bestia è davvero molteplice in numero, non la si può pigliare con unica mano. Teteto, e allora proviamo con tutte e due. Ospite, proviamo pure. E si tratta di far così per quanto si può. C'è una traccia ancora. Sarà bene correrle dietro. Dimmi un po', non ci sono forse nomi adatti a indicare lavori domestici? Teteto, certo, e molti. Per Ma a quale ti vuoi riferire tra questi, ospite? Nomi di questo genere, per esempio, diciamo colare, stacciare, squassare e sceverare. Teteto, certo, ospite, oltre a questi ancora, cardare, filare, batter la tela con la spola. E sappiamo perfettamente che altri nomi simili esistono applicati alle varie arti, o no? Teteto, proponendomi tutti questi esempi, cosa mi vuoi chiedere? Cosa vuoi significare? Ospite, eh sì, tutte queste parole appartengono a un genere esteso, il genere delle arti che tendono a separare e a distinguere. Teteto, sì, ospite, secondo dunque il mio pensiero, vi è unica arte per tutti questi atti e le attribuiremo unico nome. Teteto, come la chiameremo? Ospite, arte discriminativa o diacritica. Teteto, va bene. Ospite, osserva. Se ci riuscisse di scorgere due specie minori. Teteto, date le mie forze, richiedi, Socrate, rapida indagine. Ospite, ma in tutte queste operazioni discriminative di cui abbiamo detto, lo scopo è da una parte dividere l'elemento peggiore dal migliore, dall'altra il simile dal simile. Teteto, è già così pressappoco ora che l'hai detto. Ospite, di questa seconda sezione non avrei da dirti il nome, invece l'avrei pronto per l'altra, quell'opera discriminativa che lascia il meglio e caccia via il peggio. Teteto, dimmi qual è. Ospite, tutta intera questa operazione discriminatrice, come vado comprendendo, si chiama comunemente opera purificatrice. Teteto, la si chiama effettivamente. Ospite, ma è chiaro che quest'opera purificatrice è duplice. Teteto, con un po' di calma, forse, per ora non vedo niente. Ospite, in ogni caso conviene raccogliere sotto solo nome le molte specie di purificazioni che hanno per oggetto il corpo. Teteto, quali sono queste specie e qual è il nome? Ospite, vi sono le specie di purificazione per gli esseri viventi che avvengono nell'interno degli organismi, con giusto processo di discriminazione, per opera di ginnastica e di medicina. E così pure rivolte all'esterno, non conveniente a dirsi, si raccolgono nell'atto del bagno. Vi sono poi purificazioni di corpi inanimati. Qui vi agisce in genere l'arte che si occupa dell'abbigliamento. I nomi singoli delle singole attività sono molti e destano impressioni un po' ridicole. Teteto, sì, senza dubbio. Ospite, senza dubbio veramente, o Teteto. Ma un preciso metodo di discussione non deve badare, né tanto né poco, all'atto di pulire con la spugna oppure per mezzo di una medicina. Non deve badare, insomma, se un atto è suscettivo per noi, con sua purificazione, di grande oppur di piccolo vantaggio. Questo metodo, infatti, cerca di porre in luce relazioni di parentela e divergenze tra tutte le arti, con lo scopo di comprendere i molteplici relativi problemi. A questo scopo, secondo eguale grado, tutte le arti debbono essere tenute in giusta considerazione e lo studioso, in questo suo processo di confronto e di similitudine, non riterrà per nessuna ragione che un'arte sia più ridicola di un'altra. Per esempio, non penserà mai che chi vuole illustrare per mezzo dell'arte militare l'arte della caccia proceda ad opera più dignitosa di chi adopera l'esempio della caccia ai pidocchi. Certo dirà che quel primo non manca di qualche pretesa. Lo stesso anche ora. Tu mi domandavi con qual nome potremmo chiamare l'insieme di tutte le potenze suscettive di purificare il corpo, sia vivente o anche inanimato. Ebbene, si dirà che un esatto metodo non deve far differenza alcuna su parole più o meno decorose. Una sola cosa deve tener salda: distinguere e separare le purificazioni rivolte all'anima, mettendo da parte tutto quello che può purificare qualche altra cosa. E in questo momento abbiamo posto mano a distinguere la purificazione di cose spirituali dalle altre. Questo, se intendiamo, da noi il metodo richiede. Teteto, ho inteso benissimo e concedo che vi sono due specie di purificazione, di cui la prima è rivolta all'anima, l'altra, distinta e separata, ha per meta il corpo. Ospite, benissimo. E ora successivamente bada un po', prova a dividere in due quanto ti dirò. Teteto, tu mi conduci secondo il tuo criterio e con te procederò a divisione. Ospite, non diciamo che nell'anima c'è qualche cosa diversa dalla virtù? la malvagità, appunto. Teto, come no, ospite, e d'altra parte si diceva che purificazione è lasciar miglior elemento ed eliminare quanto di poco buono ci può essere. Teto, sì, appunto, ospite, e sarà quindi in giusto tono il nostro parlare se diciamo purificazione anche quella dell'anima, in quanto vi troviamo un modo particolare che ne allontana i mali. Teto, si capisce, ospite, allora si debbono porre nell'anima due tipi di malvagità. Teto, quali? Ospite, l'uno è come il morbo nel corpo, l'altro invece si forma come bruttezza. Teteto, non ho capito. Ospite, non ritieni una medesima cosa morbo e discordia? Teteto, ma non avrei pronta la risposta nemmeno per questa domanda. Ospite, ma ritieni forse che discordia sia diversa da un dissenso di ciò che per natura è affine? Dissenso dovuto a qualche processo corruttivo? Teteto, null'altro. Ospite, e bruttezza è specie di una misura mancante, dovunque si presenti, deforme in ogni caso. Teteto, nient'altro. Ospite, senti allora, non ti sei mai accorto che nell'anima degli uomini malvagi è perenne il contrasto? Opinioni e desideri, impeto generoso del carattere e sete di piaceri, ragione e dolore, tutto il reciproco e continuo contrasto. Teteto, sì, purtroppo, ospite, eppure tutte queste passioni hanno natura affine. Teteto, come no? Ospite, allora, se diremo che malvagità è morbo e discordia dell'anima, diremo bene. Teteto, eh sì, benissimo. Ospite, senti dunque. Vi sono cose partecipi di movimento che si propongono una certa meta, e pur cercando di pervenire a quella, deviano e ogni tentativo riesce vano. Dovremmo dire che ciò accade per una proporzione di giusta misura tra la meta e la cosa in moto, o non piuttosto al contrario, per mancanza d'esatta misura? Teteto, è chiaro, per mancanza d'esatta misura, ospite, ma sappiamo che, per l'anima, ogni errata decisione avviene contro il suo volere. Teteto, non c'è dubbio, ospite, e questo errato consiglio, né più né meno, è una deviazione dell'anima che si lancia sì verso la verità, ma sorge intanto un giudizio che finisce per farla deviare. Teteto, non c'è dubbio. Ospite, in conclusione, si deve ritenere che l'anima stolta sia brutta e senza misura. Teteto, naturale. Ospite, e concludiamo. Vi sono, come sembra, questi due generi di mali nell'anima. L'uno è chiamato generalmente malvagità, ed è chiarissimamente una forma di morbo dell'anima. Teteto, sì. Ospite, l'altro lo chiamano ignoranza, ma non vogliono ammettere che sia pur esso malvagità, e particolare anzi malvagità che ha sede nell'anima. Teteto, bisogna proprio concederti questo punto sul quale poco fa, quando me l'hai detto, ti ho fatto qualche riserva. Vi sono, insomma, nell'anima queste due condizioni maligne, e viltà, sfrenatezza e ingiustizia debbono essere giudicate quali morbi veri e propri, mentre molteplice e varia ignoranza vengono a costituire una bruttezza deformante. Ospite, e se si tratta del corpo, per analoghe condizioni maligne vi sono due particolari arti, non è vero? Teteto, quali? Ospite, per la deformante bruttezza, l'educazione fisica, per la malattia, l'arte medica. Teteto, evidente. Ospite, dunque, se si tratta invece di violenza, di ingiustizia e di viltà, vi sarà la giustizia punitiva, perfettamente adatta a questo scopo tra tutte le arti. Teteto, sì, è conseguenza naturale, a dirla secondo l'umana opinione. Ospite, senti allora, e per l'ignoranza, in tutte le sue forme, si potrà citare altra arte che non sia quella capace di insegnare? Teteto, nessun'altra. Ospite, su via dunque, di questa, capace di insegnare, dobbiamo dire che ci sia unico genere? Oppure più generi vi sono, ma due soltanto in modo particolare importanti, osserva. Teteto, sto osservando. Ospite, mi pare che in questo modo faremo prestissimo a trovarli. Teteto, come? Ospite, si tratta di guardare l'ignoranza, per vedere se a metà presentasse un segno per il taglio. Perché, vedi, se quella si manifesta duplice, è chiaro che pur l'arte di insegnare ha due parti, una per ciascun tipo di ignoranza. Teteto, cosa succede? Il problema si comincia in qualche modo a schiarire? Ospite, vedi, mi par di scorgere un tipo, ben distinto e greve, di ignoranza che fa equilibri a tutte le altre specie di ignoranza. Teteto, quale dunque? Ospite, il tipo di chi non sa qualche cosa eppur crede di saperla. E forse a causa di queste illusioni, errori di ogni sorta sopravvengono a tutto, quando si fa uso del pensiero. Teeteto, giusto, ospite, e credo che soltanto a questo tipo di ignoranza si addica l'appellativo di stupidità. Teeteto, hai ragione. Ospite, e va bene. E a quella sezione d'arte rivolta ad insegnare, e che da questa condizione ne affranca, quale nome si dovrà attribuire? Teeteto, credo, amico nostro di terra lontana, che il resto appartenga all'insegnamento dei singoli mestieri, ma quella che noi cerchiamo si è chiamata arte educativa. Ospite, certo, Teeteto, e da tutti i greci anzi, ma ora si tratta di considerare ancora quest'altro punto. Tale educazione è qualcosa di invisibile? Oppure è suscettiva ad una qualche divisione cui convenga attribuire un proprio nome? Teeteto, bisogna guardare. Ospite, mi sembra allora che anche questa educazione possa venir divisa. Teeteto, secondo quale criterio? Ospite, delle due vie, secondo cui procede un'arte capace di insegnare per via di ragionamenti, l'una è più aspra, l'altra invece più piana. Teeteto, quale l'una e l'altra? Ospite, nella prima si esprime un tradizionale costume d'antichità veneranda. In questo senso, un tempo ci si valeva trattando coi figli, e ancora molti se ne valgono ai nostri giorni, quando un figlio commette errore di cui il padre ha dispiacere. È un misto, insomma, d'accenti severi e di più dolci ammonimenti. L'insieme lo si può chiamare ammonizione. Teeteto, è così. Ospite, in quanto all'altra via, sembra che taluni, tenendo conto dei fatti, abbiano ritenuta involontaria ogni forma di ignoranza e che se qualcuno crede di sapere, non vorrà assolutamente imparare le cose su cui è convinto di essere esperto. E quindi concludevano che l'aspetto ammonitorio dell'educazione, pur con tanta fatica, ben poco arrivi a concludere. Teeteto, sì, e hanno ragione. Ospite, perciò, ad eliminare questa illusione agiscono con metodo diverso. Teeteto, quale? Ospite, sottopongono a interrogazioni e precisamente su quegli argomenti che credono sapere, quanti sono convinti di dire qualche cosa e nulla dicono. In tal modo, siccome si tratta di gente che è in errore, senza difficoltà ne pongono a prova le singole opinioni. Avviene che, raccogliendo da unico punto di vista l'intera discussione, è possibile paragonare l'una con l'altra tali opinioni, e così con questo processo ne mettono in luce le continue reciproche contraddizioni sugli stessi argomenti, sugli stessi oggetti, sugli stessi rapporti. Allora, chi viene facendo esperienza di questo metodo se la piglia con se stessa e si fa mite rispetto agli altri. Unico sistema per strappar dalle menti opinioni di molta importanza, inveterate e caparbie. Oh, un processo di liberazione che, se dà particolar diletto a chi ascolta, è d'altra parte senza conseguenze dannose per quanti lo accolgono. Chi esperisce, vedi, figlio mio, questo processo purificatorio, parte da questo punto di vista. I medici sono convinti che l'organismo non può trarre profitto dal medicamento se non si riesce ad espellere gli elementi che, per entro l'organismo, si oppongono all'azione della medicina. Allo stesso modo, questi maestri formularono una teoria circa le attività spirituali dell'uomo. L'anima, così affermano, non potrà mai ricavare utilità dalle discipline di cui viene a conoscenza se non la si porta al punto di provare per mezzo di confutazione un senso di vergogna. Si tratta di strappar via le opinioni che s'oppongono ostili all'insegnamento, si tratta di farlo tutto puro quell'uomo e dovrà credere di sapere soltanto ciò che sa effettivamente e non più. Teeteto, oh, il più nobile e il più saggio risultato dell'educazione. Ospite, già, e per tutti questi motivi, oh Teeteto, dobbiamo dire che la più grande, la più possente forma purificatoria è appunto questo tipo di confutazione. Anzi, vedi, chi non arriva ad averne esperienza, lo dovremo ritenere un uomo veramente impuro. E sia pure costui il gran re di Persia, sarà sempre un uomo che non ha avuto educazione. Un uomo brutto, precisamente sotto quegli aspetti per i quali dovrebbe apparire purissimo e bellissimo chi dovrà un giorno essere veramente felice. Teeteto, senza dubbio. Ospite, Senti allora, e a chi sa far uso di questa arte, quale nome daremo? Per conto mio, non mi sento di chiamarli sofisti. Te, Teto, perché? Ospite, non vorrei attribuire un onore troppo grande. Te, Teto, eppure ciò a cui accennano le nostre parole assomiglia un po' al personaggio ricercato. Ospite, è già, anche il lupo assomiglia al cane, anche il più selvaggio alla più mite creatura. Ma chi vuol procedere sicuro deve, oltre ogni dire, star molto attento alle somiglianze. È molto facile in tal caso sdrucciolare. Tuttavia, ammettiamo pure l'identità. Del resto, nel momento in cui ci si conceda di stare attenti quanto si deve a queste somiglianze, l'incertezza credo non sarà piccola, in quanto i due hanno confini che presentano molti punti di contatto. Teto, è davvero probabile. Ospite, sia dunque parte della discriminativa l'arte purificatoria, e della purificatoria consideriamo una sezione relativa all'anima. Di questa sezione poi l'arte capace di insegnare, di questa a sua volta l'arte educatrice, ma pervenuti a quest'arte educatrice ci appare la confutazione che si svolge contro la vana e tronfia presuntuosità del sapere. Confutazione che null'altro è se non la sofistica di ben nobile stirpe. Così diremo e così l'argomento richiede. Te, Teto, si dica pure, ma vi è una difficoltà a quanto credo. Come sono molteplici gli aspetti del sofista. E uno che voglia dire la verità e poi sostenerla questa verità, quale definizione dovrà proporre del sofista? Ospite, hai ragione a proporti queste difficoltà. Bisogna tuttavia ritenere che anche lui, il nostro personaggio, ora finalmente si trovi in non piccola difficoltà. Come potrà mai il sofista sfuggire ai nostri argomenti? Vedi, è molto giusto il proverbio: chiusa ogni uscita si scappa a fatica. In conseguenza, ora è il momento di serrarglisi addosso. Te, Teto, hai ragione. Ospite, prima di tutto, fermiamoci un istante e riposiamoci. Durante questa sosta facciamo un po', così tra noi, i conti. Sai sotto quanti aspetti ci è apparso il sofista? Mi pare che dapprima sia stato sorpreso quale cacciatore prezzolato di giovani e di ricchi. Te, Teto, sì. Ospite, per la seconda volta era uno strano commerciante in grosso di cognizioni in rapporto con l'attività spirituale dell'uomo. Te, Teto, certo. Ospite, in terzo luogo, non ci apparve forse quale commerciante al minuto di queste cognizioni, appunto? Te, Teto, sì, e la quarta volta, anzi, un venditore di cognizioni scientifiche da se stesso prodotte. Ospite, te ne ricordi bene? Il quinto punto cercherò di fartelo presente. Il nostro personaggio era un certo misterioso campione della lotta per mezzo di discorsi. Aveva riservato a sé l'arte eristica di sottile e cavillosa discussione. Te, Teto, già, proprio così. Ospite, in quanto al sesto punto un po' di incertezza. In ogni modo, con qualche concessione, abbiamo finito per vedere in lui un purificatore di quelle opinioni che fanno ostacolo all'anima quando deve imparare. Te, Teto, sicuro. Ospite, ma non t'accorgi di un certo fatto? C'è un tale che dimostra la conoscenza di molte discipline. Lo si chiama tuttavia col nome di una sola. Ebbene, c'è un difetto in tutto ciò. È chiaro che chi conclude con questo risultato, volendo definire una disciplina qualsiasi, non arriva a cogliere quel punto essenziale ove tutte quelle cognizioni si incontrano. Per questo motivo, anzi, finisce per chiamare con molti nomi, anziché con uno, il detentore di tutte queste abilità. Te, Teto, certo, proprio il caso che sia così. Ospite, ma vedi, è un risultato che non vorrei incontrassimo per la nostra pigrizia. Piuttosto riprendiamo una delle nostre definizioni già dette sul sofista. Una, in modo particolare, ne svela, secondo me, la natura. Te, Teto, quale? Si disse che egli fosse un sottile artefice in contraddizione antilogica di sottile disputazione. Te, Teto, sì. Ospite, senti adesso. E non è forse maestro agli altri di questa stessa abilità? Te, Teto, certo. Ospite, dunque, vediamo un po'. Su quali discipline questi signori dicono anche di poter rendere gli altri esperti in sottile arte disputante? E la nostra indagine ricominci dal principio in questo modo. Su via, i problemi circa il divino, problemi così oscuri e difficili per la gente comune. Ebbene, concedono i nostri antilogici abilità per discutere con sottile arte su questi problemi? Teeteto, si dice certo anche questo. Ospite, e dimmi, i problemi su cose più manifeste, l'origine e la natura della terra e del cielo e altri del genere? Teeteto, come no? Ospite, d'altra parte, in private discussioni si può trattare per via generale sul divenire e sull'essere. Ebbene, in queste occasioni sappiamo che rivelano eccezionale bravura in sostenere per contraddizione la propria tesi, così pure rendono gli altri abili in grado uguale a loro. Teeteto, indubbiamente. Ospite, e cosa si può dire sulle leggi e su ogni altra attività politica? Non lo credi? Anche su tali questioni fanno promessa di rendere gli allievi capaci di sottile disputazione. Teeteto, sì. Nessuno, per così dire, li seguirebbe nel loro insegnamento se non prendessero questi impegni. Ospite, in quanto poi ad argomenti su tutte le arti in genere e su singole arti ad una, ebbene sono cose note a tutti. Si tratta di scritture che ognuno può conoscere. Teeteto, evidentemente hai voluto accennare agli scritti di Protagora in cui si tratta della lotta e di altre arti. Ospite, sì, beato te, ma anche ad altri molti. E la caratteristica di questa sottile disputazione antilogica, a dirla per sintesi, non ti par forse una certa capacità adatta a porre qualsiasi cosa in dubitazione? Teeteto, eh sì, e nessun argomento le rimane indietro. Ospite, e tu, mio giovane amico, credi possibile un'abilità di questo genere? Perché può darsi il caso che voi giovani di tenera età possiate vedere più chiaro in questo mistero. Noi invece non ci vediamo che poco e male. Teeteto, che cosa vuoi dire? Con quale intenzione? Non mi riesce di intendere la tua domanda. Ospite, se è possibile che un uomo conosca tutto lo scibile. Teeteto, felice o uomo straniero e amico sarebbe allora la stirpe nostra. Ospite, e dunque in qual modo un ignaro e profano potrà discutere? Come proporre obiezioni a chi è specialista? Come potrà accingersi a simile impresa e dire ragioni sensate? Teeteto, in nessun modo. Ospite, ma allora quale sarà il segreto del potere straordinario che hanno i sofisti? Teeteto, su cosa? Ospite, per quale misteriosa ragione essi infondano nei giovani sicurezza che il sofista sia l'uomo di tutti il più sapiente? Una cosa, vedi, è molto chiara. Se quelle obiezioni non avessero un fondo di verità, e se i giovani non ne avessero impressione, o anche, pur ammessa questa impressione, se i signori sofisti non riuscissero, proprio per questa loro abilità di dubitar discutendo, a farsi giudicare persone più intelligenti delle altre, chi sarebbe disposto a fornire denaro ai signori sofisti, a diventarne discepolo e ad apprendere precisamente questa disciplina? Teeteto, ce ne vuole. Ospite, e invece sono disposti. Teeteto, anche troppo. Ospite, hanno l'aria infatti di essere persone esperte in quelle discipline sulle quali discutono. Teeteto, come no? Ospite, e fanno lo stesso su qualsiasi argomento, diciamo noi. Sì, si capisce che allora presso i loro discepoli si dimostrano sapienti su ogni problema. Si capisce, senza esserlo, perché questa condizione ne apparve impossibile. Effettivamente, disse Teeteto, come non sarebbe impossibile? Ospite, ad una vana scienza opinativa su ogni problema si riduce scienza famosa di sofista. Non certo egli possiede una scienza di verità. Teeteto, senza dubbio, e forse la conclusione detta ora è la più giusta di quante su questa gente abbiamo potuto trovare. Ospite, allora si tratta di cogliere qualche esempio esplicativo più chiaro su queste conclusioni. Teeteto, quale esempio? Ospite, questo che ti dirò. Cerca di stare ben attento e di rispondermi con precisione. Su cosa? Teeteto, supponi c'è un tale che non afferma già di dire o di contraddire, bensì di saper produrre e fare, valendosi di un'unica arte, tutte le cose. Teeteto, in che senso tutte le cose? Ospite, è già, cominci intanto a non capire il principio di quanto ti voglio chiedere. Si vede bene che non capisci cosa voglia dire tutte le cose. Teteto, appunto, non capisco. Ospite, dico che fra tutte queste cose ci siamo io e te. E oltre a noi ci sono gli altri viventi tutti, e animali e vegetali. Teteto, come dici? Ospite, se uno dicesse di poter fare me, te e tutto quanto vive. Teteto, ma qual tipo di produzione intendi? Non è possibile che si tratti di un agricoltore. Il tuo artefice deve essere infatti capace, come dicesti, di produrre anche animali viventi. Ospite, lo dico certo, ma deve anche produrre il mare, la terra, il cielo, gli dèi, qualunque cosa, insomma. Anzi, produce ogni cosa con grande rapidità, vende tutto e per poco denaro. Teteto, vuoi scherzare? Ospite, ma senti, quella pretesa di sapere ogni cosa, quando si afferma di insegnare ogni cosa a buon mercato in breve tempo, non è anche uno scherzo vero e proprio? Teteto, certo, ospite, e di questo tipo di scherzi, avresti modo di fornirmi esempio più ingegnoso e più bello dell'arte imitativa? Teteto, no, certo. Del resto, hai nominato una specie assai ricca di specie minori, hai raccolto in unica parola molteplici manifestazioni, è specie veramente complessa codesta. Ospite, in conclusione stiamo facendo la conoscenza di questo personaggio che si dichiara capace di produrre con unica arte ogni cosa. Lo conosciamo questo mirabile mostro. Produce imitazioni di cose che si possono chiamare con gli stessi nomi degli originali. Valendosi di sua pittorica abilità, riesce certo a ingannare qualche ragazzo un po' sciocco. Gli mostrerà di lontano le sue pitture e gli darà ad intendere che qualunque cosa questo ragazzo vorrà fare è capacissimo di farla, è completa e reale. Teteto, come no? Ospite, ma c'è ancora un'altra osservazione. Come dobbiamo immaginarci, c'è anche una cotale recondita arte che ha per oggetto la parola. Per suo mezzo, giovani, ancor del tutto ignari sulla verità dei fatti, riescono presi attraverso l'udito come da un sortilegio di parole. È possibile mostrar solo fantasmi e vane ombre, parole soltanto su ogni fatto. E cosa ne consegue? Apparenza di dire il vero, come se chi parla fosse più sapiente di tutti. Teteto, e per quale motivo non ci dovrebbe essere un'arte di questo genere? Ospite, perché vi è necessaria conseguenza, caro Teteto. Molti di questi discepoli vengono a contatto della reale condizione dei fatti. L'esperienza stessa dolorosa della vita li porta ineluttabilmente a toccar con mano la realtà senza infingimenti. In tale condizioni, come tramutano le antiche opinioni? Oh, allora sì, le cose grandi sembrano piccole, e difficili le cose che parevano tanto facili. Tutte quelle apparenze affidate a parole, come in ogni parte, risultano capovolte. Questa è la dura lezione dei fatti. Teteto, gli anni miei sono pochi, ma mi pare proprio che sia così. Anzi, credo, io pure appartengo al novero di questi giovani, ancora così remoti dalla realtà. Ospite. E allora noi stessi, quanti qui siamo, faremo prova, tutti. Anzi, senz'altro, la facciamo subito questa prova, per condurti quant'è possibile vicino alla realtà, evitandoti dolorosa esperienza. Ma torniamo al sofista, e tu dimmi quanto segue. Ti par chiaro questo punto? È egli senz'altro un cotale maligno incantatore, capace soltanto di imitare la realtà. Oppur dovremmo avere qualche dubbio in proposito. Forse egli si trova davvero in possesso di quelle cognizioni, a proposito delle quali tanto rifulge la sua bravura nel contraddire. Teteto, come vuoi, o amico di terre lontane, che questo sia. Ormai è chiaro, da quanto si disse, il nostro individuo è di quelli che hanno relazione con lo scherzo, col gioco, con simili attività. Ospite, allora è un impostore, un ciarlatano, un imitatore. Un mimeta, cioè, e come tale lo dobbiamo considerare. Teteto, ma certo, come non lo si dovrebbe considerare così? Ospite, su via dunque, sarà nostra cura ormai fare in modo che la nostra fiera non ci sfugga. L'abbiamo quasi serrata dentro una certa cosa che l'avviluppa come rete, uno strumento di quelli che il ragionamento adopera in simili casi. Oh, sta pur sicuro, da questa sorte non ci scappa più. Teteto, quale sorte? Ospite, d'esser parte del genere dei ciarlatani, uno di costoro. Teteto, Anche a me questa conclusione sembra probabile. Ospite, sono deciso dunque a dividere in due sezioni l'arte di immagini, e una volta discesi fino a questo punto, nell'ipotesi che il sofista lì subito ci attenda a piè fermo, lo prenderemo senz'altro, come la parola del gran re prescrive. Lo consegneremo anzi a lui e gli faremo vedere il risultato della nostra caccia. Nell'ipotesi invece che il nostro uomo si nasconda per entro a specie minori della mimetica arte, in tal caso siamo decisi a tenergli dietro e a continuare a dividere la zona del suo rifugio, e dovrà ben finire per lasciarsi prendere. Non v'è dubbio che né lui né altro, nessuno mai potrà menar vanto di sfuggire a un'indagine di chi per tal modo è in grado di seguire le orme, metodo così analitico e nello stesso tempo sintetico. Teteto, benissimo, si tratta di far senz'altro così. Ospite, insistendo sul precedente metodo di divisione, mi par di scorgere due tipi d'arte di similitudine o arte mimetica, in quanto invece all'individuo che andiamo cercando, ho l'impressione di non riuscir bene ad intendere in quale delle due sezioni venga a trovarsi in definitiva. Teteto, devi in ogni caso dire e distinguere quali siano queste due sezioni di cui ci stai parlando. Ospite, ne vedo una, l'arte con cui si procede a una copia, il che avviene quando, seguendo le misure dell'esemplare, si compie opera di imitazione e si attribuiscono inoltre colori convenienti ai singoli particolari. Teteto, ma senti, questa operazione non cerca di produrla ogni artefice di mimesi? Ospite, eh no. Così non fanno quanti modellano o dipingono qualche opera di vaste proporzioni, perché se intendessero riprodurre con l'esatta misura la bellezza degli originali, sai molto bene che le parti superiori verrebbero ad apparire più piccole del giusto, le parti inferiori invece più grandi, per il solo fatto che lo spettatore vede le une da lontano, le altre da vicino. Teteto, indubbiamente, ospite, e perciò appunto gli artefici non trascurano forse ogni preoccupazione di verità, introducono quindi nelle varie copie non le proporzioni che veramente esistono, bensì quelle che hanno l'apparenza di essere belle. Teteto, senza dubbio, ospite, e allora non è forse giusto chiamare copia il primo prodotto, dato che si tratta di una riproduzione? Teteto, sì. E la parte della mimetica che a ciò presiede si deve chiamare, come dicevo poco fa, arte con cui si procede a copia. Teteto, si chiami pure. Ospite, allora sta attento. Vi sono cose che danno l'impressione di riprodurre la bellezza dell'originale perché viste da un punto non conveniente. Se invece si potessero osservare nel dovuto modo, si vedrebbe che non assomigliano affatto a quanto si afferma essere l'originale. Ebbene, come chiamerai tutto questo? Non forse un insieme di parvenze? Mostrano d'essere una certa cosa, ma non la riproducono esattamente. Teteto, certo, ospite. E non credi che questa specie abbia larga applicazione nella pittura e in tutta l'arte mimetica? Teteto, come no? Ospite, e quest'arte che non riproduce esattamente una copia, ma soltanto una parvenza dell'originale, non la dovremmo forse chiamare arte di parvenze? Teteto, sì, certo. Ospite, eccoti dunque le due specie minori dell'arte di immagini, specie che produce la copia e specie che produce parvenze. Teteto, giusto. Ospite, c'è ancora quel punto sul quale prima mi mostravo dubbioso, in quale cioè delle due sezioni si dovesse riporre il sofista. E nemmeno in questo momento mi riesce di veder chiaro. Che strano personaggio è costui? Si fa grande fatica a vederlo bene, perché anche ora, con grande bravura e molto bene, si è rifugiato per entro a specie di ben ardua investigazione. Pare, dice Teteto. Ma devo proprio dire, continua l'ospite, che il tuo assenso proceda da cognizione precisa dei fatti, oppure l'abbrivio stesso del discorso ti ha trascinato per abitudine ad assentire senz'altro alla mia tesi. Teteto, in qual senso e con quale scopo hai detto questo? Ospite, anima mia, ci siamo messi in difficoltà bella e buona con tale nostra indagine. Queste espressioni, apparire, sembrare, non essere veramente, così pure il pronunciare qualche giudizio, che tuttavia non è vero, sono tutte frasi che agitano problemi ardui ogni dire, oltre ogni dire, nel passato tempo e nel presente. È cosa ben difficile, vedi, Teteto, concepire come si possano dire cose errate, oppure come si possa opinare che queste cose errate veramente esistano. Difficile cosa poi, se si pronuncia questo giudizio, non cadere in contraddizione. Teteto, perché? Ospite, perché questo argomento è stato così ardito da ammettere che il non essere è. In realtà l'errore non potrebbe avvenire in altro modo. E invece Parmenide il grande, figlio mio, quando eravamo fanciulli ancora, in tutti i modi sosteneva questo principio, e ad ogni occasione, sia in prosa come pure nel suo poema, diceva Parmenide: non costringere, bada, non enti ad essere, mai. Evita cercando questo sentiero, sia lungi il pensiero. Questa è la sua testimonianza. D'altra parte, non sarebbe difficile che l'argomentazione stessa ne desse luce in proposito, sottoponendola ad interrogatorio. E se non è nulla in contrario, si dovrebbe appunto cercare di veder bene questo problema come prima cosa. Te, Teto, in quanto al mio assenso, puoi contare senz'altro. Per conto tuo, invece, considera in qual modo potrà meglio procedere l'argomentazione. Va pure, dunque, e conduci anche a me per questo sentiero. Ospite, sì, faremo in questo modo. Terza parte della lettura del Sofista di Platone. È stato appena introdotto il problema del non essere. Ospite, dimmi dunque, abbiamo noi il coraggio di pronunciare in qualche modo l'assoluto non essere? Teteto, come no? Ospite, supponi che, non per amore di litigio, non per vano passatempo, ma sul serio, qualcuno di questi ascoltatori, dopo matura riflessione, dovesse dare una risposta e dire di qual soggetto si possa predicare il non essere. Ebbene, con quale soggetto completamente determinato, quantitativamente, cioè e qualitativamente, si potrebbe far uso di questo predicato, e ciò sia per conto nostro, sia nella dimostrazione a chi ne chiede qualche schiarimento. Te, Teto, oh, la tua domanda è difficile, direi per un ragazzo come sono io, insuperabile, anzi. Ospite, ma questo punto è chiaro: ciò che non è, non si deve predicare di ciò che è, qualunque sia questa cosa. Teteto, già, e come si potrebbe? Ospite, ma ne viene di conseguenza che, se non lo si può predicare di nessun ente, nemmeno secondo giusta ragione lo si potrà predicare di qualche cosa. Teteto, e come sarebbe possibile? Ospite, ma un altro fatto ancora è evidente. Questa espressione qualche cosa la diciamo ogni volta per qualche cosa che è. Impossibile, infatti, dire questa parola. Solitaria, fatta ignuta e deserta da tutto quello che si contiene nell'essere. Non credi? Te, Teto, impossibile. Ospite, ma allora sei d'accordo che, considerando per tal modo il problema, necessariamente chi dice qualche cosa deve pur dire una certa cosa determinata. Te, Teto, così. Ospite, e dirai pure che questo qualche cosa è un segno con cui è segnata una sola cosa. Se diciamo invece la forma duale si tratterà di due, se adopereremo il plurale di molte, Teteto, come no? Ospite, e chi non dice qualche cosa, per ineluttabile conseguenza, come è naturale, non dice nulla assolutamente. Teteto, sì, veramente ineluttabile conseguenza. Ospite, e non si deve nemmeno concedere un altro punto, che cioè chi fa così, in quanto al dire, l'azione la fa, ma non dice niente. Si dovrà invece sostenere che chi tenta ad esprimere il non ente nemmeno emette una voce. Te, Teto, e così si metterebbe termine a ogni questione. Ospite, non cantar vittoria. Ce n'è ancora da discutere. Anzi, la più grande difficoltà è la prima di tutte, e questa viene a presentarsi proprio alle prime parole della questione. Te, Teto, come dici? Parla pure e non indugiare. Ospite, ad un ente si potrà predicare sempre qualche altro ente. Su questo non c'è dubbio. Teteto, come no? Ospite, e affermeremo noi che del non ente si possa predicare qualche ente? Teteto, e come? Ospite, per esempio, il numero nella sua totalità lo riteniamo un ente. te, Teto, sicuro, in modo particolare il numero è un ente ospite, e allora non devi in nessun modo attribuire il non ente all'unità, oppure alle quantità plurime del numero. Te, Teto, no, certo, e non andrebbe bene far così. Parola dimostra appunto questo. Ospite, ma come mai le labbra potrebbero pronunciare, oppure il pensiero concepire, un numero plurale di non enti o il numero singolare del non ente a prescindere dal numero? Te, Teto, il come, dillo tu. Ospite, quando diciamo un numero plurale di non enti, non ti pare che attribuiamo il numero plurale? Te, Teto, certo, e invece il numero singolare del non ente è reciprocamente un'unità, non credi? Te, Teto, nel modo più evidente. Ospite, eppure stiamo dicendo che non è né giusto né opportuno cercar d'attribuire l'ente al non ente. Te, Teto, sono del tutto d'accordo con te, ospite, e adesso t'accorgi che non è possibile, secondo retta ragione, né pronunciare né esprimere il non ente in se stesso. Nemmeno concepirlo col pensiero è possibile. T'accorgi che il non essere è impensabile, ineffabile, impronunciabile, non esplicabile. Te, Teto, senza dubbio alcuno. Ospite, ma forse avevo torto di dire che avrei esposto su questo problema il più difficile punto, e invece ne abbiamo un'altra ancor più grande da dire. Te, Teto, quale? Ospite, mio intelligente amico, non te ne accorgi da quanto abbiamo già detto? Il problema del non essere porta enormi difficoltà a chi ne vuole discutere. Per esempio, noi vogliamo confutare la teoria del non essere, ma ci troviamo costretti a contraddirci quando tentiamo di esprimere la nostra sentenza. Te, Teto, come dici? Parla più chiaro. Ospite, cosa vuoi cercare in me chiarezza maggiore? Ho cominciato a stabilire che il non essere non debba aver partecipazione né con l'unità né con la pluralità. E intanto, poco fa e pur ora, ho detto che il non essere è uno. Lo esprimo infatti con le mie parole al singolare. Certo, tu capisci? Te, Teto, sì. Ospite, eppure ancora poco fa dicevo che è impronunciabile, inesprimibile e non esplicabile. Segui? Te, Teto, seguo. Come no? Ospite, in questo mio sforzo di predicare al non essere l'ente, mi trovai a dire il contrario di quanto dicevo prima. Non credi? Evidente. Ma facendo questa predicazione non ne parlavo forse come fosse uno? Te, Teto, sì. Ospite, eppure lo dicevo non esplicabile, indicibile, inesprimibile, e intanto ne facevo parola come fosse una singola unità. Te, Teto, e come no? Ospite, e tuttavia diciamo che, seppur si vuol parlare con scientifica esattezza, non si deve definire questo non essere né come uno né come molti né assolutamente chiamarlo con un pronome. Anche con tale appellativo, infatti, si finirebbe per designarlo come unità. Te, Teto, senza dubbio. Ospite, e chi potrà esprimere la mia situazione? Oggi, come sempre, mi si troverà interamente disarmato sulla questione del non essere. Per conseguenza, come dissi, la retta indagine su questo problema del non essere non bisogna cercarla nelle mie parole. Piuttosto ormai cerchiamola nelle tue. Te, Teto, come dici? Ospite, via, tu sei giovane. Da bravo, quindi, cerca di fare ogni sforzo per quanto puoi. Non devi predicare al non ente né l'essenza, né l'unità, né la pluralità. E ciò nonostante cerca, così stando le cose, d'esprimere come si deve il non ente. Te, Teto, dovrebbe essere violento desiderio il mio, e strano anche questo desiderio di un mio tentativo. Ho potuto vedere che tu stesso hai avuto questo bel risultato, e dovrei anch'io esperire la prova? Ospite, ma se credi, te e me lasceremo andare, e fino al giorno in cui potremo incontrare chi sia capace di questo sforzo, fino a tal giorno dovremo dire che questo nostro sofista, da perfetto briccone, è andato a cacciarsi in luogo inestricabile. Te, Teto, pare proprio così. Ospite, in conseguenza, Se diremo che il nostro personaggio è in possesso di una certa arte capace di produrre parvenze, questo sofista allora, partendo da tale appellativo, ci si attaccherà dietro e butterà in aria tutte le nostre ragioni. Sicché, quando noi lo chiamiamo facitore di immagini, egli allora ci si volgerà a chiedere che cosa in genere sia per noi un'immagine. Insomma, si tratta di osservar bene, o te, Teto, quale risposta si potrà dare alla domanda di questo signore. Te, Teto, è chiaro, diremo che immagini sono quelle segnate nell'acqua o negli specchi. Ancora, sono immagini le cose o dipinte o effigiate e altro del genere. Ospite, si vede bene, te, Teto, il sofista non l'hai mai veduto. Te, Teto, perché? Ospite, t'apparirà come un uomo che ha gli occhi chiusi. O meglio ancora, come uomo che non ha nemmeno gli occhi. Come? Quando gli fornisci risposta concepita in questi termini, nel caso che tu accennassi a cosa riflessa in uno specchio o assimilata in qualche plastica figura, il nostro sofista si mette a ridere delle tue definizioni. Infatti, ti rivolgi a lui come a chi vede, mentre egli fa dichiarazione di non saperne né di specchi né di acqua, e nemmeno assolutamente dell'organo della vista. Soltanto egli intende di chiederti la nozione astratta e generica della cosa. Te, Teto, quale? Ospite, tu hai detto molti oggetti diversi, eppure hai ritenuto di raccoglierli sotto l'appellativo di un unico nome. Pronunciavi infatti la parola immagine o copia per tutti questi oggetti, in quanto li ritenevi unico oggetto. Ebbene, egli ti chiederà appunto che cosa sia questo che è quasi un uno sopra tutti questi oggetti diversi. Cerca dunque di parlare e difenditi senza cedere in nulla a quel signore. Te, Teto, e cosa mai si dovrebbe dire, amico nostro di terra lontana? Certo, immagine è oggetto assimilato a quello vero, un secondo oggetto tale e quale. Ospite, intendi che questo secondo oggetto tale e quale sia un oggetto vero? O in quale altro senso hai detto tale e quale? Te, Teto, e no, vero assolutamente no, somigliante tuttavia. Ospite, ah, il vero allora lo intendi proprio un ente. Te, Teto, così. Ospite, sta attento, il non vero è contrario al vero. Cosa ne dici? Te, Teto, certo, ma spiegati meglio. Ospite, se ne conclude che il somigliante è non ente per essenza, dato che lo dici non vero. Te, Teto, sicuro, ma in un certo senso è pure ente tuttavia. Ospite, ma non proprio ente tu dici. Te, Teto, no, certo, è piuttosto essenzialmente un simulacro. Ospite, se ne ricava che l'immagine di cui parliamo, pur non essendo ente per essenziali ragioni, ha effettivamente una sua partecipazione con l'essere. Te, Teto, ma forse appunto con tale misterioso intreccio è stato insieme complicato il non ente con l'ente. Una cosa strana davvero. Ospite, sì, e come strana non sarebbe? In ogni caso, pur vedi che anche in questo momento questo sofista, uomo dalle molte teste, valendosi di questo misterioso intreccio, ha costretto anche noi ad ammettere contro il nostro volere che il non ente in un certo senso pure è un ente. Te, Teto, lo vedo, purtroppo. Ospite, senti ora, l'arte del nostro famoso individuo la dovremo pur definire. Ebbene, quale ne sarà definizione, in modo da restare in armonia con i nostri stessi dati? Te, Teto, in che senso dici così? Che cosa ti turba? Ospite, quando affermiamo che, ricercando soltanto parvenze, il nostro individuo procede ad inganno. Quando affermiamo che l'arte sua è illusione continua, non diremo forse allora che l'anima nostra concepisce errore e menzogna sotto l'influsso dell'arte di lui? Oppure cosa dovremo dire? Te, Teto, questo, che altro dovremo dire? Ospite, ma allora ci sarà un'opinione errata la quale concepisce conclusioni contrarie al vero. O come diremo? Te, Teto, così, contrarie conclusioni. Ospite, insomma, dici che l'opinione errata va opinando le cose che non sono. Teto, necessariamente. Ospite, e questa opinione afferma forse che sono le cose che non sono? Oppure opina essa che in qualche modo è ciò che non è in nessun modo? Teto, in qualche modo le cose che non sono debbono pure essere, altrimenti non si può dire mai errore o menzogna, neppure per un istante. Ospite, senti, e non si potrà anche affermare che in nessun modo è ciò che assolutamente pure è? Teto, sì. Ospite, e questo anche è errore o menzogna, non è vero? Teto, anche questo. Ospite, allora un ragionamento errato o falso sarà ritenuto tale per la stessa guisa, in quanto afferma che quanto è, non è, come pure in quanto afferma che quanto non è, è. Teto, si capisce, in nessun altro modo quel ragionamento sarà falso oppure errato. Ospite, certo, forse in nessun altro modo. Ma tutte queste conclusioni il sofista non le ammetterà. In quale modo si potrà riuscire a farne convinto un uomo di buonsenso, dato che pure abbiamo ammesso in precedenti conclusioni il non essere come inesprimibile, indicibile, non esplicabile e non pensabile? Comprendiamo, Teeteto, il peso dell'argomento? Teeteto, sì, e come non lo dovremmo comprendere? Dirà che stiamo contraddicendoci in pieno, in quanto abbiamo il coraggio di affermare che nelle opinioni e nei giudizi è possibile errore e menzogna, eppure avevamo ammesso proprio ora impossibilità assoluta di congiungere l'ente al non ente, e ciò nonostante siamo ricondotti più volte necessariamente a far questo. Ospite, esatto il tuo ricordo, ma ora è il momento di decidere cosa dobbiamo fare del sofista. Vedi, per chi procede all'indagine, annoverandolo nell'arte dei ciarlatani, quanto facili e numerosi siano gli incagli e le difficoltà. Teeteto, anche troppo. Ospite, in ogni modo ne abbiamo esposto piccola parte. Oh, sono per così dire senza misura le difficoltà. Teeteto, ma allora, par naturale, data questa condizione, sarà impossibile afferrarlo, il nostro sofista. Ospite, cosa? Dovremo da vili così desistere dall'impresa? Teeteto, eh no, direi che non si dovrebbe far così, seppur crediamo di riuscire in qualche modo a mettere le mani sul nostro uomo. Ospite, vuol dire allora che mi compatirai e, come ora hai detto, ti accontenterai se, come ci riesce un po' alla volta, potremo tirarlo fuori, questo sofista, dalla sua munita argomentazione. Teeteto, e vuoi che non ti compatisca? Ospite, ma allora con tanto maggior calore dovrei rivolgerti una preghiera. Quale? Non vorrei che tu vedessi in me un malvagio parricida. Perché? Se dovrò persistere a cercare difesa contro il sofista, mi sarà inevitabile sottoporre ad attenta prova il sistema di Parmenide, il padre mio. Mi troverò costretto a far forza nella mia dimostrazione e a concludere che il non essere in un certo senso è pure essere e che l'essere reciprocamente è non essere in un certo senso. Teeteto, dovremmo sostenere con vigore questa tesi, appunto. Ospite, si capisce, anche un cieco, secondo il proverbio, lo vedrebbe. In realtà, se questo problema non sarà discusso e se non ci saremo messi d'accordo, sarà impossibile evitare una conseguenza. Appariremo degni di canzonatura quando necessariamente cadremo in contraddizione con noi stessi, trattando di giudizi o di opinioni errate, oppure di immagini, di simulacri, di imitazioni, di apparenze, sia discutendo di questi fatti in sé, come pure delle arti singole che ne sono in rapporto. Teeteto, perfettamente vero. Ospite, per tale motivo è necessaria la forza di attaccare senz'altro in questo momento il sistema del padre mio. Nel caso invece che ci trattenga qualche scrupolo, sarà meglio abbandonare del tutto la discussione. Teeteto, oh, nulla in nessun modo ponga impedimento alla nostra ricerca. Ospite, allora, per la terza volta, vorrei rivolgerti una piccola preghiera. Dilla senz'altro. Ho detto poco fa che a questa dimostrazione ho sempre sentito impari il mio vigore, e così pure penso in questo momento. È vero, l'hai detto. Destano preoccupazione non piccola in me gli argomenti già esposti. Per Potrebbe darsi che per quanto ho detto si formasse una certa impressione in te e che tu concludessi che non troppo sano il mio cervello. Non vedi come ad ogni passo vado aggirandomi in su e in giù? Davvero, è per farti un piacere che inizieremo la confutazione di quella tesi, ammesso pure che a confutarla potremo riuscire. Te, Teto, oh, se è per questo, fatti animo. Sta pur sicuro che se t'accingerai a questa confutazione, a questa dimostrazione, non penserò che ci sia nelle tue parole qualche accento stonato. Ospite, allora cominciamo. Quale inizio si potrebbe dare a discussione tanto perigliosa? Ecco, a mio giudizio, figlio caro, la via da percorrere inevitabilmente. Quale? Credo più opportuno considerare prima, attentamente, quelle conclusioni che ci sembrano ora evidenti. Non vorrei che avessimo idee poco chiare e con troppa facilità ci si desse ragione l'uno con l'altro, quasi in possesso di una completa evidenza. Te, Teto, esprimi più chiaramente quanto stai dicendo. Ospite, vorrei dire che Parmenide ha trattato con noi la questione senza indagarla in tutta la sua profondità. E, come Parmenide, tutti quanti si accinsero a risolvere questo problema ontologico col quale si classificano gli enti, determinandone il numero e le qualità. Come? Crederei che ciascuno ci abbia narrato una specie di favola, quasi fossimo bimbi. E uno afferma che tre sono gli enti, talvolta tra sé per misterioso modo essi combattono guerre, talvolta invece, divenendo amici, offrono occasione a nozze, generano una prole. E questa prole allevano e crescono. Un altro pensatore invece stabilisce due elementi, umido e secco oppure caldo e freddo, li mette a dimorare insieme e ne celebrare nozze. Presso di noi vi è poi la scuola eleatica, che trae il suo inizio da Senofane e ancora prima di lui. È sua affermazione che quanto si suol chiamare universa congerie delle cose sia unico ente. L'esposizione è condotta poi per mezzo di un velo di miti. Ci furono inoltre nella Ionide in Sicilia taluni pensatori ispirati dalle muse. Nelle loro meditazioni affermano anzi sicurissima ipotesi intrecciare le due precedenti teorie e sostenere che l'essere è plurimo ed è uno. Amicizia e inimicizia lo tengono unito. Discordante lo compone accordo perenne. Così si esprimono le muse di più sublime voce. Quelle invece di cui più molle è il canto, fecero più mite tale eterna legge delle cose. Affermano che l'universo, in perenne alternanza, talora è uno e con se stesso amico per dono di Afrodite, talvolta invece plurimo e per misteriosa inimicizia a se stesso inimico. Difficile è determinare se la teoria di qualcuno di questi pensatori sia rispondente o meno alla verità. Difficile giudizio e irriverente cosa è anche iniziare critica severa contro uomini così antichi e così gloriosi. Una censura in ogni modo si può esprimere e non sarà irriverenza la nostra. Te, Teto, quale censura? Ospite, non hanno tenuto conto di noi che siamo la folla. Par proprio che ci guardino di sotto in su. In realtà, senza darsi alcun pensiero se ci riesca di seguire tali speculazioni oppure se restiamo indietro, ciascuno per conto suo, si preoccupa di dar compimento al proprio sistema. Te, Teto, come dici? Ospite, quando qualcuno di questi antichi pronuncia le proprie sentenze, affermando che l'essere è, oppure che l'essere è stato, che diventa pluralità o uno o due, quando postula commischianza del caldo col freddo, oppure quando ne ammette dissociazioni e associazioni, ebbene ogni volta o te, Teto, capisci qualcosa di tutte queste teorie? Per conto mio, quando ero più giovane, il concetto del non essere, che in questo momento ci pone tanta difficoltà, credevo di intenderlo esattamente. Ora invece, vedi tu stesso in quale difficoltà ci troviamo. Te, Teto, vedo. Ospite, ma allora, assai probabilmente, anche per il concetto positivo dell'essere, abbiamo accolto nell'anima un ordine analogo di difficoltà. Ma su questo punto Affermiamo di trovarci a nostro agio. Ci par di comprendere benissimo quando si enunciano i teoremi di questo problema. Invece, per il concetto negativo, l'impressione è opposta. In sostanza, tuttavia, tanto di fronte al concetto negativo, come pure di fronte al positivo, ci troviamo in condizioni uguali. Teteto, forse. Ospite, del resto, una simile riserva va fatta anche per gli altri aspetti sopra elencati del problema, indubbiamente, ma su questi numerosi aspetti potremo anche in futuro esperire indagine. Ora si tratta di iniziare ricerca su quello che è più esteso, il primo veramente, il capo supremo, anzi. Teteto, a cosa accenni? Del resto è chiaro, tu dici che si deve fare ricerca in primo luogo sull'essere e vedere quale significato attribuiscano a tale parola i singoli pensatori. Ospite, mi segui perfettamente, o Teteto. Affermo del resto che dobbiamo seguire il solito nostro sistema. Supponi che questi pensatori fossero qui presenti. La nostra domanda potrebbe essere formulata in questi termini. Va bene, voi dite che le universe cose sono o caldo o freddo, o qualche altra coppia non dissimile. Ma allora, cos'è mai questo quid che potete predicare per l'uno e per l'altro elemento? Voi dite che l'uno e l'altro nel loro insieme è, e così pure ciascuno per conto suo è. Questo è di cui fate uso, come lo dobbiamo interpretare? Quest'essere è forse un terzo elemento oltre quei due primi? Ma allora l'universalità corrisponde al numero 3, non più al 2, e in tal senso dobbiamo forse risolvere il problema secondo la vostra stessa teoria? Del resto, se voi chiamate essere l'uno dei due termini, nemmeno così vi sarà lecito di dire che l'uno e l'altro termine è parimenti essere, perché a rigore di parola vi sarebbero, dall'una e dall'altra parte, due unità distinte e mai vi sarebbe il numero 2. Teteto, hai ragione. Ospite, ma forse non è vero? Volete dire che ambedue i termini sono essere? Teteto, forse. Ospite, allora o amici, diremo, anche per questo modo, finite per affermare chiaramente che i due termini sono una unità. Teteto, hai detto benissimo. Ospite, dunque, per conto nostro, ci troviamo in gravissima difficoltà. Dovreste voi darci un'esauriente spiegazione di questo problema. Insomma, cosa volete intendere quando pronunciate la parola ente? È chiaro, infatti, che da lungo tempo voi siete esperti su questo problema. Noi, invece, prima d'oggi, credevamo di sapere qualche cosa, ma ora ci siamo trovati di fronte a difficoltà non indifferenti. Insomma, spiegateci voi ogni cosa. Così non ci illuderemo più di comprendere i vostri detti, mentre in realtà la nostra condizione è opposta. Ti paiono, figlio caro, sconvenienti queste parole? Inopportuna la richiesta a questi filosofi e a tutti gli altri che affermano plurima l'universalità delle cose? Teteto, e no, non è affatto sconveniente. Ospite, senti ora. Non dovremmo fare ogni sforzo presso quanti affermano che l'essere è uno per sapere quale concetto abbiano dell'essere? Teteto, come no? Ospite, dunque dovranno rispondere a questa domanda. Voi, evidentemente, affermate che soltanto vi è l'uno. Essi diranno, è così effettivamente, non credi? Teteto, sì. Ospite, e allora chiamate voi l'essere una certa cosa? Teteto, sì. Ospite, ma l'essere lo chiamate voi col nome con cui chiamate l'uno e vi servite in realtà di due nomi per la medesima cosa, oppure come vi comportate? Teteto, che risposta si potrebbe dare a questa domanda? Ospite, è chiaro, Teteto, non è facile che chi ammette questa ipotesi abbia modo di dare una risposta sia a questa sia a qualche altra domanda del genere. Teteto, come? Ospite, è certo risoluzione ridicola ammettere che vi siano due nomi pur non avendo accettato nulla al di fuori dell'uno. Teteto, come no? Ospite, e non c'è, in ogni caso, ragione alcuna per ammettere l'affermazione che vi sia un nome qualsiasi. Teeteto, come? Ospite, ammettendo che il nome sia diverso dalla cosa, si finisce per dire che vi sono due cose. Teeteto, sì. Ospite, ma anche se si affermasse che il nome e la cosa sono lo stesso, l'avversario non sfugge al dilemma. O si troverà costretto a dire che il nome è nome di nulla, oppure se affermerà che è nome di qualche cosa, ne verrà per conseguenza che il nome sarà nome di un nome e di nulla più. Teeteto, così. Ospite, e l'uno, essendo soltanto uno di uno, non sarà l'uno significato dal nome. Teeteto, necessariamente. Ospite, senti allora, diranno che la totalità è diversa che quest'uno che loro fanno uguale all'essere, oppure diranno che la totalità è identica a quest'uno che è. Teeteto, sì. Lo diranno ed effettivamente lo dicono. Ospite, se dunque l'ente è totalità, come si esprime anche Parmenide, simile a massa di sfera, rotondo volume, perfetta, equilibrata d'intorno e nel mezzo, per nulla più grande, quinci o quindi o più piccolo l'uno non è già mai. Se tale è l'essere, avrà una parte centrale e una parte estrema. E se avrà queste, ogni altra parte pure avrà, non credi? Teeteto, così. Ospite, nulla impedisce certo che quanto è diviso in parti abbia tuttavia una partecipazione con l'uno nel complesso delle singole parti. Per tal modo, quanto è diviso in parti, risultando una totalità in un intero, potrà essere pur sempre uno. Teeteto, perché no? Ospite, ma è impossibile che quanto si trova in tali condizioni sia veramente e propriamente l'uno. Teeteto, come? Ospite, vedi, l'uno che sia veramente tale deve risultare semplicissimo se si vuol parlare con proprietà di linguaggio. Teeteto, eh sì, è vero. Ospite, e con questa nostra ipotesi non si accorda affatto quest'uno plurimo composto di molte parti. Teeteto, capisco. Ospite. Quindi l'essere al quale si può predicare quest'uno sarà forse nella stessa guisa pure lui essere e totalità? Oppure non dovremo assolutamente dire che l'essere sia una totalità? Teeteto, ma la scelta è davvero assai difficile. Ospite, hai perfettamente ragione. L'essere infatti, partecipe di quest'unità, senza dubbio alcuno, le si manifesta diverso. Quindi l'insieme che ne risulta sarà qualche cosa più dell'uno. Sì, d'altra parte, nel caso in cui l'essere non fosse la totalità, come sarebbe se ne partecipasse, ma la totalità fosse distinta e separata dall'essere, ne viene la conseguenza che l'essere sarebbe di se stesso manco. Teeteto, non c'è dubbio. E seguendo questo ragionamento, l'essere manco di se stesso sarà intanto non essere. Così, in ogni caso, l'insieme risulterà di quantità maggiore all'uno. Dato che l'essere e la totalità sono venuti a prendere ciascuno per suo conto la propria natura, separati come sono l'essere e la totalità delle cose. Teeteto, sì. Ospite, se d'altra parte si ammette che non vi è assolutamente la totalità, allora la medesima condizione spetta anche all'essere, il quale, oltre che non essere, non potrà mai diventare essere. Teeteto, perché? Ospite, ciò che è divenuto. Una volta finito il processo del suo divenire, è una totalità. In conseguenza non si può affermare esistenti né l'essere né la generazione se non si pone la totalità tra le cose che sono. Teeteto, sembra che assolutamente sia così. Ospite, e ciò cui è negata totalità non deve nemmeno aver dimensione o quantità alcuna. Ciò infatti che ha in sé una certa grandezza, un certo numero, siccome poi viene ad assumere dimensioni e quantità determinate, pur sarebbe in tale condizione necessariamente una totalità. Teeteto, indubbiamente. Ospite, e concludendo, ciascun'altra risoluzione dimostrerà di avere in sé innumerevole e senza fine le difficoltà per chi proponga che l'essere tanto sia una dualità come pure un'unità. Teeteto, sì, e anche lo dimostrano le nostre recenti conclusioni. L'una con l'altra intrecciate, portano con sé una incertezza sempre più grande e sempre più grave, se si pensa a quanto abbiamo via via detto. Ospite, e non abbiamo certo esaminato ancora tutti i pensatori che discutono con metodo esatto circa l'essere e circa il non essere. In ogni modo, Basti così. Ora si tratta di considerare quanti discutono dell'essere e del non essere secondo altri criteri. Scorgeremo così, da visione completa, che dire cosa sia l'essere non è certo affermazione facile, come del resto non è facile dire cosa sia il non essere. Te, Tito, sicuro, bisogna pur mettersi in viaggio anche verso costoro. Ospite, cosa vuoi? Vorrei proprio dire che una strana battaglia di giganti si è accesa fra i due avversari. Tanto sono grandi le reciproche dispute sul problema dell'essere. Te, Tito, come? Ospite, gli uni trascinano ogni cosa sulla terra, giù dal cielo e dal regno delle cose invisibili. S'afferrano con le mani davvero a rocce e a querce, e fortemente attaccati a tutte queste visibili cose, pugnacemente affermano soltanto essere ciò che si dimostra suscettivo di produrre o urto o un contatto qualsiasi. Fanno coincidere, quasi fossero la stessa cosa, corpo e regno dell'essere. Pieni di disprezzo e risoluti a non ascoltar nemmeno chi affermasse che pure è qualche altro elemento di natura non corporea. Teteto, oh! Accenni a personaggi ben terribili. Anch'io ho incontrato molti tipi di questo genere. Ospite, in conseguenza, i pensatori che ne mettono in dubbio il sistema, pieni di circospezione, iniziano proprio a difesa da punto molto alto, da una certa invisibile posizione, e attraverso grandi sforzi dialettici arrivano ad affermare che l'essere presso il quale è la verità risulta appunto uguale a certe specie incorporee e intelligibili. D'altra parte, per mezzo di sottili argomenti, cercano di ridurre in infinitesime parti i corpi e la verità proposti dagli avversari, e non li chiamano essere, ma generazione trasportata in perenne movimento. Tra le due parti avverse si è accesa su questi problemi, o Teeteto, immensa battaglia che mai non ha tregua. Teeteto, verissimo. Ospite, in conseguenza, cercheremo di cogliere successivamente le ragioni dell'uno e dell'altro avversario, in rapporto a quella teoria dell'essere che ciascuno per suo conto ritiene vera. Teeteto, e come potremo cogliere queste ragioni? Ospite, più facile è intanto cercarle da chi ripone l'essere nelle specie. Si tratta di persone che hanno carattere più docile e più arrendevole. Più difficile, invece, da chi tutto vuol ricondurre al corpo. Impresa che forse direi impossibile, ma penso che si potrebbe agire in questo modo. Come? Il meglio, se l'impresa è possibile, sarebbe renderli effettivamente migliori, ma le nostre forze non giungono a tanto. Dobbiamo quindi cercare in teoria almeno di renderli più docili. Si potrà supporre in conseguenza che questi signori siano pronti a darci una risposta un po' più conforme al Galateo di quanto non sogliano fare. Oh, è un fatto. Se potremo avere il consenso di uomini da bene, la conclusione sarà, così almeno penso io, più efficace che nel caso contrario. E noi non ci preoccupiamo tanto di loro. La verità è meta di ogni nostra ricerca. Teeteto, giustissimo. Ospite, allora, caro mio, devi dire a queste persone fatte migliori che ti diano una risposta, e a tua volta tu potrai, quale interprete, riferirne a noi la sentenza. Teeteto, sarà fatto. Ospite, digano dunque se ammettono che ci sia un vivente soggetto alla morte. Come no? E non concedono forse che questo vivente sia un corpo dotato di anima? Teeteto, indubbiamente. Ospite, e con ciò non ammettono che l'anima è qualche cosa? Sì. Senti dunque, non dicono forse che c'è un'anima giusta e un'altra ingiusta, e questa intelligente, quella sciocca? Teeteto, certo, e poi? Ospite, poi voglio dire che, per costume giusto e per presenza di giustizia, ciascuna di queste anime diviene giusta. Per le qualità contrarie, invece, si fa contraria anche l'anima. Teeteto, sì, anche questo lo ammettono. Ospite, ma allora dovranno pure ammettere il seguente principio: ciò che è suscettivo di farsi presente a qualcuno ed è pur suscettivo di dipartirsene, dovrà essere qualche cosa. Teeteto, per ammetterlo, lo ammettono, sì. Ospite, se c'è dunque giustizia, se c'è saggezza e ogni altra virtù, se ci sono le qualità contrarie, ci dovrà essere anche l'anima in cui queste qualità si possano ingenerare. Ebbene, Diranno forse i nostri uomini che qualcuna di queste entità si può toccare e si può vedere? Oppure dovranno dire che sono tutte entità invisibili? Teto, rispondono probabilmente che nulla di quanto dice è visibile. Ospite, e cosa concluderanno in proposito? Forse che sono entità corporee? Teteto, su questo punto non rispondono in un unico modo. Diranno bensì che esiste nell'anima stessa, così credono, un elemento corporeo. Per quanto concerne invece la saggezza e le altre virtù, sulle quali hai fatto domanda, hanno scrupolo di mostrare una faccia sprontata e dire che o non esistono affatto, oppure debbono essere tutti enti corporei. Ospite, oh, è ben chiaro te, Teto. I nostri personaggi sono diventati ormai migliori. Certo, gli uomini nati veramente dal drago e dalla terra non avrebbero questi scrupoli, ma resisterebbero in ogni modo, perché senz'altro dicono essere un nulla assolutamente tutto ciò che non sono in grado di stringere con le mani. Teto, sì, questi pressappoco i principi di questa gente. Ospite, una seconda volta dunque, rivolgiamo domanda. Basterà al nostro scopo che concedano soltanto questo. Vi è qualche cosa, pur piccola, di incorporea natura. Così, vedi, saranno perciò stesso condotti a dire quale sia quel quid connaturato alle cose, quel quid su cui, volgendo lo sguardo, affermano che parimenti sono le cose dell'uno e dell'altro ordine, corporee e incorporee. E forse si troveranno in difficoltà non piccola, il che, se avverrà, cercheremo per conto nostro di suggerir qualche cosa. D'altra parte, in questa difficoltà, non pensi che saranno disposti ad accettare e a consentire che l'essere è pressappoco una cosa di questo genere? Teteto, che cosa? Parla, e presto lo sapremo. Ospite, dico insomma che quanto ha in sé potenza di qualsiasi genere, preformato cioè a produrre un'altra cosa qualunque, o a subire passiva un'altra azione qualunque, sia pur minima, sia pur prodotta da un agente di nessuna importanza, e sia pur soltanto per un'unica volta suscettivo di subirla, questa azione, ebbene io dico che qui veramente vi è essere. Stabilisco dunque questa definizione. L'essere non è altro se non potenza. Te, Teto, se i nostri amici non hanno per il momento nulla di meglio da dire, accetteranno certo la tua definizione. Ospite, bene. E forse, in un successivo momento, opinioni diverse potrebbero sorgere in noi e in costoro. Dunque, per ora, su questo punto, ci sia d'accordo. Ci sia. Andiamo allora dagli altri, gli amici delle idee. Un'altra volta tu ci servirai quale interprete. E veniamo alle teorie. Teto, sarà così. Voi affermate che divenire e regno dell'essere sono distinti e li dividete rispettivamente. Sì. E affermate pure che l'uomo per mezzo del corpo ha partecipazione col divenire e che ciò è opera di sensazione. Invece l'anima per mezzo di un'attività mentale ha partecipazione con il vero e proprio regno dell'essere. E dite che il mondo dell'essere è immutabile eternamente nel suo atto. Il divenire invece ora in un modo, ora in un altro. Teteto, diciamo certo così. Ospite, e come dobbiamo ammettere che voi esplichiate, ottimi amici nostri, il processo di partecipazione tra l'uno e l'altro ordine? Non forse secondo quanto or ora abbiamo detto? Teteto, come? Ospite, un'attività o una passività? L'una e l'altra dovute a una certa potenza che risulta dal reciproco contatto dei due ordini. E forse te, Teto, la risposta tu non la comprendi bene. Io sì, invece, per i frequenti contatti che ne ho avuto. Teto, ebbene, quale obiezione fanno? Ospite, non ti concedono il punto, concordato con la prole della terra circa l'essere. Quale punto? Abbiamo ritenuto che bastava definire l'essere, chiamarlo potenza, presente in qualsiasi cosa, o di soffrire, passiva, un'azione, o di produrla attivamente, sia pure in minimo grado. Teteto, sì, ospite, ed ecco quanto essi obiettano a questa definizione. Nell'ordine del divenire vi è attiva potenza e passiva. Affermano invece che nel regno dell'essere non si può convenientemente pensare né attiva né passiva potenza. Ecco Teto, e ti pare che abbiano torto? Ospite, vedi, a questa obiezione è bene rispondere così. Abbiamo bisogno di chiedervi con chiarezza maggiore se concedete che l'anima conosce e che l'essere nella sua oggettività è conosciuto. Teto, questo certamente lo dicono. Ospite, sentite dunque, conoscere ed essere conosciuto, secondo voi, è attiva azione oppure passiva sofferenza? O forse l'una cosa è l'altra? Oppure l'uno è passione e l'altro invece azione? Oppure ancora nell'uno o nell'altro processo? Conoscere, cioè, ed essere conosciuto non ha nulla assolutamente da fare né con l'azione né con la passione. Teto, è chiaro, nell'uno o nell'altro processo, di nessuna delle due condizioni, perché altrimenti si troverebbero a dire affermazioni contraddittorie. Ospite, capisco, ma a questo punto lo concederanno. Se l'atto del conoscere ha caratteristica attiva, ne verrà per conseguenza necessaria che la cosa conosciuta subisce una passività. E così pure, ammesso questo principio, l'essere che è conosciuto per un atto di conoscenza, in quanto è conosciuto secondo questo rapporto, è passivamente mosso. E questa condizione, affermiamo, non potersi verificare in ciò che è inquiete. Teto, giusto? Ospite, ma senti, in nome del cielo, accetteremo con tanta facilità che non vi sia nell'ente assoluto, nella sua plenitudine, movimento e vita e anima e pensiero non partecipati? Diremo che egli non vive, non pensa? Diremo che immobile egli è, senza una mente, nella venerabile santità sua? Teto, sarebbe concedere, amico mio, ben grave argomento. Ospite, ma diremo che in lui sì è una mente, non invece la vita? Teteto, e come? Ospite, ma diremo forse che certamente l'una e l'altra facoltà sono in lui, ma che tuttavia egli di queste facoltà non dispone in quanto si raccolgano in un'anima? Teteto, e in quale altro modo le potrebbe avere? Ospite, ma diremo allora che l'ente assoluto ha mente, vita e anima, ma che se ne sta immobile totalmente pur essendo animato? Teteto, sono tutte conclusioni destituite, così mi pare, di senso comune. Ospite, ciò che è mosso dunque, e così il movimento, bisogna pur concedere che abbiano partecipazione con l'essere. Teteto, come no? Ospite, ne consegue dunque che se vige solo l'assoluta immobilità, non è possibile l'intellezione. In nessuna parte, per nessun argomento, senza dubbio. Eppur tuttavia, se concediamo che ogni cosa è trasportata in perenne moto, anche con questa conclusione toglieremo via dal novero delle cose quella stessa intellezione. In qual modo? Ma ti par possibile che, a prescindere da qualche immobilità, ci possa essere una permanenza di condizioni, di modi, di rapporti? Teteto, in nessun modo. Ospite, senti allora, e a prescindere da questa permanenza, scorgi forse il modo per cui possa esserci o possa prodursi in qualsiasi luogo una mente? Teteto, affatto. Ospite, in ogni modo dunque bisogna combattere, resistendo a chi riduce al nulla ogni scienza, ogni cognizione, ogni atto mentale, insomma, e viene poi ad affermare conclusioni sicure su qualche cosa. Teteto, sì, certo. Ospite, il filosofo, insomma, ha un solo dovere, e con lui chiunque comprende il valore di questi argomenti. Dovremo respingere senza esitare quest'immobile condizione universa, sia che si sostenga la teoria dell'uno, come anche la teoria di una pluralità di idee. E non parliamo nemmeno di chi si rappresenta l'essere travolto per ogni modo nel flusso del modo e del divenire. Il filosofo, invece, dovrà fare come i bimbi quando formulano un desiderio. Si dovrà dire che quanto è in moto e quanto è mosso, l'una e l'altra cosa vengono a costituire l'essere e la totalità dell'universo e cose. Teteto, verissimo. Ospite, senti Teteto, non credi che ormai parola abbia definito bene l'essere? Teteto, certo. Ospite, mi stupisco e credo invece che purtroppo cominceremo proprio ora a conoscere la difficoltà del problema. Teteto, ma come? Perché dici questo? Ospite, beato te, Non capisci che appunto ora siamo completamente all'oscuro, eppure abbiamo la pretesa di poter discutere su questo problema. Teteto, ma io credevo di poterlo fare, e non capisco nemmeno bene come non ci siamo accorti di essere in queste condizioni. Ospite, osserva più attentamente dunque. Se ammetteremo quanto ora si disse, ci si potrebbe rivolgere la stessa domanda che facevamo noi stessi a quanti affermavano che l'universalità delle cose è caldo e freddo. Teteto, quale domanda? Ho veramente bisogno che tu mi rinnovi il ricordo. Ospite, certo, e cercherò di far questo rivolgendomi a te per mezzo di domande, come mi rivolgevo a quei signori poco fa. Contemporaneamente procederemo nell'indagine. Teteto, giusto. Ospite, e va bene. Non dici che movimento e quiete sono tra loro contrari oltre ogni dire? Teteto, come no? Eppure tu affermi che ambedue, e ciascuno per suo conto, parimenti sono. Teteto, lo dico effettivamente. E dici forse che ambedue insieme e ciascuno per suo conto si muovono quando ammetti che sono? Teteto, in nessun modo. Oppure vuoi significare che stiano immobili quando affermi che sono? Teteto, come mai? In conclusione, nell'anima intellettiva tu poni l'essere come terzo, al di fuori di questi due, convinto che quiete e moto vengano contenuti dall'essere per estensione maggiore. Anzi, in quanto ne concepisci e ne vedi la partecipazione all'essere, appunto, dell'uno e dell'altro hai predicato l'essere. Teteto, oh, guarda, davvero, quando diciamo che la quiete è e che il moto è, oscuramente quasi presentiamo nell'essere un certo quid misterioso, terzo oltre ai primi due. Ospite, allora movimento e quiete, presi nel loro insieme, non sono l'essere. L'essere è qualcosa diverso dall'uno e dall'altra. Teteto, direi. Ospite, secondo la propria natura, dunque, l'essere né sta né si muove. Teteto, pare di sì. E allora, dove dovremmo rivolgere ancora il pensiero se desideriamo avere un concetto chiaro e sicuro su questo problema? Ma dove? Ormai penso che non sia facile trovare un punto verso cui rivolgersi. Perché se qualche cosa non si muove, come potrà non essere immota? Oppure ciò che per nessun modo è immoto, come non sarà sottoposto al moto? E l'essere in questo momento ci è apparso al di fuori dell'una e dell'altra condizione. E ti par possibile questo? Teteto, per me oltre ogni dire è impossibile. Ospite, tieni a mente allora un'altra cosa oltre queste. Quale? Che quando ci si domandava di quali soggetti si possa predicare l'appellativo del non essere, ci siamo trovati avvolti da difficoltà d'ogni genere, ti ricordi? Come no? E diresti che sull'essere ci troviamo ora in difficoltà minore? Teteto, amico uomo di terra lontana, potrei dire che ci troviamo, seppure è possibile, in difficoltà maggiori. Ospite, abbiamo così assodato quanto la questione è ardua, e così sia. D'altra parte, queste difficoltà e queste antinomie si presentano in pari misura per il problema dell'essere e per quello del non essere. In conseguenza, ci possiamo aspettare che se l'uno ci apparirà in una luce più chiara o più oscura, anche l'altro ci apparirà in eguale proporzione di luce. Così pure nel caso che l'uno e l'altro si sottraessero ai nostri sguardi, spingeremo avanti la discussione dei due problemi contemporaneamente, nel modo che meglio potremo. Teteto, bene. Ospite, su via, si tratta di vedere in qual modo a una medesima cosa si attribuiscano di volta in volta molti predicati. Cosa intendi? Dammi un esempio. Diciamo, sai bene, la parola uomo. E ad uomo copuliamo innumerevoli predicati. Gli attribuiamo colori, forme, dimensioni e bontà e virtù. In tutte queste operazioni e in altre innumerevoli, non soltanto diciamo sempre che si tratta di un uomo, ma anche ad un uomo buono, e altri predicati adoperiamo senza limite alcuno e per altri soggetti secondo lo stesso sistema, pur supponendo ciascun soggetto sempre uno, con processo reciproco lo riteniamo plurimo e con molti predicati lo veniamo determinando. Teteto, è la verità. Data questa condizione di fatto, consegue, credo, che giovani e vecchi di tarda maturazione intellettuale trovino imbandito ben l'autobanchetto. È facile impresa, infatti, obiettare la impossibilità che i molti siano uno e che l'uno sia molti. È Eccoli allora pieni di esultanza. Oh, non vogliono concedere che si possa dire uomo buono, ma solo ammettono che il buono è buono e l'uomo è uomo. Certo, Teeteto, ne incontri non di rado personaggi che sostengono seriamente queste mirabolanti teorie. Talvolta anche uomini d'età avanzata, gente piena d'ammirazione di fronte a problemi stupefacenti come questi, gente un po' scarsa per mentale patrimonio che crede di aver scoperto in queste formule l'arcano della suprema sapienza. Teeteto, non c'è dubbio, ospite, siccome d'altra parte desideriamo che la nostra parola si rivolga a quanti hanno trattato comunque il problema dell'essere, a questi, come pure agli altri con cui precedentemente abbiamo discusso, intendo proporre a tutti la seguente questione sotto forma di domande. Teeteto, cosa domanderai? Ospite, se intanto sia impossibile copulare l'essere al movimento, alla quiete e a qualsiasi altro soggetto. Impossibile, insomma, qualsiasi unione. E se dovremo perciò ritenere soggetti e predicati nel linguaggio immisti totalmente e non suscettivi di nessuna partecipazione reciproca. Oppure, seconda ipotesi, se dovremo copulare a caso ogni predicato a ogni soggetto, ritenendo che tutti, senza discriminazioni, possano reciprocamente copulare. Da ultimo la terza ipotesi. Predicati e soggetti potranno essere copulati, sì, ma per gli uni ciò è forse possibile, per gli altri invece no? Di queste tre ipotesi, o Teeteto, quale secondo noi vorranno preferire? Teeteto, ma non saprei davvero che cosa risponderti. A nome di costoro, ospite, in ogni caso rispondendo a ciascuna delle tre questioni, perché non ne vuoi considerare le singole conseguenze? E allora, cominciamo dapprima a porre quale ipotesi, se ti piace, che nulla, con nulla, nulla capacità possieda di partecipazione per nulla effetto. Non ne deriva forse che movimento e quiete non hanno per nessun modo partecipazione con l'essere? Te hai detto, e no, nessuna partecipazione. Senti, l'uno e l'altro, il moto e la quiete, in quanto non partecipano all'essere, si potrà dire che sono? Teeteto, no, non possono essere. Ospite, se ammetti questo, ne segue immediata conseguenza che tutto è andato a finire in enorme confusione. Confusione nelle teorie di chi ritiene in perpetuo modo travolta l'universalità delle cose. Confusione per chi le fa in mote, affermandone l'unità assoluta, confusione per chi sostiene che l'universo e cose, in quanto nelle specie, sono eternamente negli stessi rapporti e nello stesso modo. Tutti questi pensatori, vedi, ammettono la partecipazione dell'essere, in quanto gli uni dicono che le cose effettivamente sono in perpetuo modo, gli altri invece che sono in mote. Non c'è dubbio. E poi ci sono quei pensatori che talora congiungono le cose universali, e talora invece le separano e dividono, sia che le raccolgano in unità, sia che invece dall'uno distinguano e separino innumerevoli elementi, ma possono anche distinguere le cose e separarle in elementi che abbiano un numero limitato, e di questi elementi possono comporre le cose. E questo svolgimento, affermano, avviene secondo un processo o alternante o continuo. Vedi bene che tutte queste teorie si risolverebbero in nulla se non ci fosse nessuna possibilità di partecipazione. Giusto. Ma ancora, figura più ridicola di tutti, farebbe chi affermasse che di una cosa partecipante a condizione diversa dalla propria non si possa predicare il diverso nome esprimente appunto questa condizione. In che senso? Sai bene, gli uomini si trovano in necessità continua d'adoperare tutti i momenti la parola essere. Così pure separatamente, così pure gli altri, così pure in se stesso, e simili espressioni senza numero. Quindi i sostenitori di questa tesi non riescono ad evitare tali espressioni per non farne uso nell'intreccio del discorso. Avviene così che non c'è bisogno, nei loro riguardi, di chi ne assuma la confutazione. Al contrario, come dice il proverbio, ce l'hanno dentro, in casa, il loro nemico. Avversario che penserà lui a mettere le cose a posto. Anch'essi vanno in giro e recano seguito uno che dentro continua a interloquire. Teeteto, proprio la stessa cosa, è vera poi. Ospite, e invece, quali le conseguenze se concediamo che ogni attributo e ogni predicato abbia in sé capacità di una partecipazione senza limite alcuno. Oh, ma questo problema lo posso risolvere pure io, dice Teeteto. Ospite, come? Teeteto, e consegue che persino il movimento sarebbe del tutto immobile, che la quiete persino a sua volta sarebbe in moto nel caso in cui si trovassero a coesistere insieme. Ospite, eppure questa conclusione pare evidente, è impossibile per ineluttabile necessità, che cioè il movimento sia in quiete e la quiete in movimento. Come no? Resta allora soltanto la terza risoluzione. Sì, certo, non c'è modo di sfuggire a una di queste tre ipotesi. Oppure partecipazione senza limite alcuno, oppure partecipazione totalmente negata, oppure finalmente, in certi casi sì, in altri invece no. Teeteto, non si discute. Ospite, e anzi, le prime due ipotesi ci si rivelarono impossibili. Eh già, ne consegue che chi vuol dare una giusta risposta dovrà pure accettare la rimanente delle tre, senza dubbio. Siccome dunque in taluni casi la predicazione è ammessa, non così invece in altri, ne viene che ci si trova proprio come per le lettere dell'alfabeto. Sai bene, talune per pari guisa non si adattano alla reciproca copulazione. Talune invece si adattano. Teeteto, come no? Ospite, anzi, le vocali, in modo particolare fra le altre lettere, si insinuano quasi, a guisa di connettivo tessuto, in mezzo a tutte. Ne consegue che, se si prescinde da una vocale, è impossibile che altra lettera qualsiasi possa congiungersi ad altra. Teeteto, sì, senza dubbio alcuno. Ma allora ti pare che ogni uomo possa sapere quali lettere sono suscettive di partecipazione con altre e quali queste altre siano? O non piuttosto è necessaria particolare abilità se si debba procedere bene a questa operazione? Teeteto, un'abilità? Ospite, quale? Teeteto, quella del grammatico. Ospite, senti questo. Quando si tratta di suoni acuti e di suoni bassi, non è forse lo stesso? Sarà uomo esperto nell'arte musicale che ha l'abilità di conoscere quei suoni che hanno suscettibilità di reciproca compartecipazione e quelli che tale compartecipazione non ammettono. Chi invece non sa far questo sarà ignaro di musica. Teeteto, così, ospite, e per le altre arti troveremo altre conclusioni analoghe, come pure per chi non possiede nessuna arte. Teeteto, come no? Ospite, sta un po' attento. Abbiamo ammesso che anche i generi si comportano allo stesso modo nel processo di reciproca partecipazione. Ne viene quindi che bisogna necessariamente procedere forniti di una certa scienza, seppur si deve dimostrare senza errore quali generi partecipano tra loro e quali non ammettano questa partecipazione, e inoltre vedere se ci siano taluni generi che, a guisa di tessuto connettivo, rendano possibile il processo della partecipazione. Reciprocamente, poi, nel processo contrario di separazione e divisione, scorgere se vi sono altri generi che interponendosi sono causa della divisione. Teeteto, ma sì, vuoi che non ci sia bisogno di una scienza, è certo la più grande di tutte. Ospite, e con quale nome, Teeteto, chiameremo questa scienza? O, senza accorgercene, siamo forse andati a finire presso la scienza degli uomini liberi? E forse anche, pur ricercando il sofista, abbiamo prima trovato il filosofo. Come dici? Saper procedere ad opera di divisione secondo i generi e non ritenere diversa una specie che è la medesima, come d'altra parte non ritenere medesima una specie che è diversa, non lo diremo il compito vero e proprio dell'arte dialettica? Teeteto, sì, lo diremo. E chi sa procedere a quest'opera sa anche con sufficiente esattezza distinguere un'unica idea di estensione maggiore che d'ogni parte attraverso ad altre molte si estende, ciascuna delle quali tuttavia è distinta da quella di estensione maggiore ed è una singola unità. Così pure, partendo da queste idee reciprocamente diverse e molteplici, il dialettico può intendere come tutte siano comprese da un'idea più estesa che tutte le abbraccia, rimanendo pur sempre distinte dall'abbracciante. Inoltre, comprendere come quest'unica idea di estensione maggiore, nel medesimo tempo in cui si estende non solo a ciascuna delle molte, ma pure a tutte insieme, può rimanere congiunta fortemente all'uno. Comprendere finalmente come ciò nonostante le molte, in quanto molte, siano del tutto fra loro indipendenti e distinte da qualcuno, la quale capacità si risolve in saper distinguere secondo il genere, in quali casi possano verificarsi processi di partecipazione e in quali casi no. Teteto, senza dubbio. Ospite, ma questa scienza dialettica la vorrai concedere, come credo, soltanto al filosofo che esercita sua scienza con genuino metodo e con giustizia? Teteto, e come si potrebbe concederla a qualche altro? Ospite, ecco dunque, potremo trovare il filosofo in un luogo pressappoco come questo, se lo vorremmo cercare ora oppure più tardi. Certo, non è facile trovarlo nemmeno lui, se si desidera la piena chiarezza. In ogni caso, si tratta di difficoltà diversa da quella che tanto ci affatica per trovare il sofista. Come? L'uno scappa, nascondendosi nella tenebra del non essere che facilmente attinge perché ne ha esperienza continua. Quanta difficoltà per scoprirne le tracce, quanto immensa la tenebra del luogo ove egli dimora. Non credi? Teteto, sì, ospite. Il filosofo, invece, che persegue con uno sforzo d'argomentante pensiero l'idea d'ogniente, in perenne dimora presso quella, nemmeno il filosofo può essere facilmente veduto. Il fulgore immenso del luogo ove dimora, questo fulgore l'asconde. Oh, la volgare gente! Non può reggere quando volge pupille dell'anima a guardare il divino. Teteto, quest'ultima conclusione non vale certo meno della precedente. Ospite, del resto, su questo aspetto del problema fra poco esperiremo più chiara indagine, qualora tale rimanga il nostro desiderio. Invece, a proposito del sofista, è chiaro che non desisteremo prima di averne fatto sufficiente ricerca. Teteto, hai ragione. Il sofista, quarta parte della lettura completa del dialogo di Platone. Ospite, dunque, abbiamo già ammesso che taluni generi sono suscettibili di partecipazione reciproca, altri invece no. Così, taluni generi hanno estensione maggiore, altri invece minore. Anzi, ve ne sono alcuni che hanno estensione massima, in guisa da partecipare a tutti gli altri generi meno estesi. Ciò dunque ammesso, cerchiamo di tener dietro al disputante parola e consideriamo in questo modo il problema nostro. Non si tratta più di perseguirne la risoluzione a proposito di tutte le specie. Sono molte e possono darci motivo di confusione. Sarà bene, invece, trascceglierne talune di quelle che si dicono grandissime, cioè particolarmente estese, e, in primo luogo, vedere quale ciascuna sia. In secondo luogo, quali ne siano le condizioni, considerandone potenza di reciproca partecipazione. Per tal modo, anche se non arriviamo a cogliere con perfetta chiarezza il concetto di essere e di non essere, almeno ne potremo dare ragione, per entro i limiti di questa indagine. Vorremmo, insomma, riuscire per qualche modo a liberarci senza danno da questa nostra affermazione di un non essere assolutamente non essere. Teteto, facciamo pur così. Ospite, i generi più estesi sono quelli di cui abbiamo fatto cenno: l'essere, il moto, la quiete. Teteto, sì, certo. Ospite, e precisamente due, quiete e movimento, affermiamo, non sono suscettivi di partecipazione reciproca. Teteto, sì, benissimo. Ospite, invece l'essere è partecipato dall'una e dall'altra idea. L'una e l'altra, infatti, pur sono. Teteto, come no? Ospite, e ne risultano tre generi. Teteto, certo, e poi? Ospite, poi ne consegue che ciascuno di questi generi è altro dagli altri due e con se stesso è invece medesimo. Teteto, così? Ospite, e in qual senso abbiamo ora nominato per tal modo il medesimo e l'altro? Sono possibili due sensi, ovvero questi due ultimi generi sono qualche cosa in se stessi, l'uno e l'altro dissimili dai tre precedenti, commisti tuttavia inevitabilmente sempre con quelli, e noi dobbiamo svolgere la nostra indagine su cinque, non su tre generi, ovvero non ne abbiamo l'impressione perché li chiamiamo con un sostantivo, ma il medesimo e l'altro effettivamente sono parte dei precedenti. Teteto, forse. Ospite, in ogni caso non è affatto vero che quiete e movimento siano il medesimo e l'altro. Come? Qualunque predicato si copoli in comune a quiete e a movimento non può essere né l'uno né l'altro di questi due. Perché? Ma sì, perché Movimento starà in moto e quiete invece sarà in movimento. Quando infatti il medesimo, oppure anche l'altro, fosse copulato e assimilato alla precedente coppia, del movimento cioè della quiete, senz'altro porta uno dei termini della coppia stessa a tramutarsi in ciò che è opposto alla propria natura, in quanto è venuto ad assumere partecipazione col proprio contrario. Certo, non v'è dubbio. Movimento e quiete hanno tuttavia partecipazione col medesimo e con l'altro. Sì, in conclusione, non dobbiamo dire che il movimento sia il medesimo oppur l'altro, e così nemmeno la quiete. No, certo. Ma dovremmo forse pensare che l'essere il medesimo siano qualche cosa di unico? Forse. Ma se essere, se medesimo, in nulla differiscono nel loro significato, quando diciamo viceversa che moto e quiete l'uno e l'altra pure sono, senz'altro anche diremo che l'uno e l'altra, il moto cioè la quiete, sono una medesima cosa. Teteto, sì, ma questo non è possibile. Ospite, conseguenza, impossibile che medesimo ed essere siano qualche cosa di unico. Teteto, eh sì. Ospite, allora è concesso porre il medesimo quale quarta specie accanto alle prime tre. Teteto, indubbiamente. Ospite, ma senti un po', l'altro dobbiamo annoverarlo quinta specie? Oppure il processo mentale concepisce l'altro e l'essere come due nomi riferibili ad unica specie? Teteto, ma forse. Ospite, in ogni caso ritengo, sei d'accordo che vi sono cose considerabili, le une in senso assoluto, per se stesse cioè, le altre in senso relativo. Nei rapporti reciproci, insomma. Teteto, perché no? Ospite, e che l'altro va sempre considerato in modo relativo, nel rapporto con un altro, insomma, o no? Così. Ma questo non avverrebbe se non ci fosse immensa differenza tra l'essere e l'altro. Bensì, se l'altro avesse partecipazione a questo e a quel modo, relativo cioè e assoluto, come appunto l'essere a questa partecipazione. Ne verrebbe la conseguenza che si potrebbero dare casi in cui l'altro non fosse tale in modo relativo. Invece, non c'è dubbio alcuno, abbiamo concluso ineluttabilmente che quanto è altro lo sia in modo relativo. Teteto, dici proprio le cose come stanno. Ospite, allora bisogna concludere che la natura dell'altro sia nel novero delle specie che abbiamo trascelto, e precisamente quale quinta specie. Sì. Affermeremo pure che, avendo estensione assai grande, si insinua attraverso tutte le specie. Vedi bene che ciascuna cosa è altra dalle rimanenti, non per la sua propria natura, ma perché partecipa all'idea dell'altro. Teteto, non v'è alcun dubbio. Ospite, e allora dobbiamo concludere su questi cinque generi sommi, riprendendoli a uno per singola indagine. Cosa? Intanto, in primo luogo, movimento è del tutto altro dalla quiete, o come dobbiamo dire? Teteto, così? Ospite, allora il movimento non è quiete. Teteto, per nessun modo. Ospite, ma tuttavia è in quanto a partecipazione con l'essere. Teteto, è. Ospite, ancora e per opposta ragione, il movimento è altro dal medesimo. Teteto, certo. Ospite, insomma, non è il medesimo. Teteto, credo di no. Ospite, ma d'altra parte esso movimento è pure il medesimo, perché ogni cosa ne ha partecipazione. Teteto, senza dubbio. Ospite, in conseguenza, dobbiamo concedere senza difficoltà che il movimento sia il medesimo eppure non sia il medesimo. È un fatto, vedi, quando diciamo che il movimento è il medesimo eppur tuttavia non è il medesimo, non ci esprimiamo nello stesso senso. Bensì, quando poniamo l'affermazione, vogliamo significare la relazione del movimento con se stesso, in seguito alla partecipazione col medesimo. Quando invece poniamo la negazione, vogliamo significare che il movimento per la partecipazione con l'altro, venendo separato e distinto dal medesimo, è divenuto non già l'altro, bensì un altro. In conseguenza, si può porre anche il giudizio negativo e dire che il movimento reciprocamente non è il medesimo. Teteto, indubbiamente. Ospite, E non ti par forse che, se per dannata ipotesi il movimento avesse perfino una partecipazione con la quiete, non ci sarebbe nulla di strano dare al movimento l'appellativo di immobile? Teto, sì, e andrebbe benissimo, ma dovremmo ammettere che, tra i generi, taluni sono suscettibili di partecipazione, taluni invece no. Ospite, a questo punto eravamo già pervenuti prima di quanto si sta dicendo ora. Si dimostrava che questa è naturale condizione. Come no? Allora torniamo a dire un'altra volta. Il movimento è altro dall'altro a quella guisa che, si vide, è altro dal medesimo e dalla quiete. Ti pare? Necessariamente. E allora il movimento è non altro in un certo senso ed è pure altro secondo le conclusioni presenti. Vero? E allora cosa viene poi? Ti pare che questo movimento sia altro dai tre generi, quiete, medesimo, altro, e non dovremmo forse dire che sia altro anche dall'essere il quarto genere? E bada, abbiamo ammesso che sono cinque questi generi sui quali e per entro ai quali decidemmo di discutere. Teto, e come? Impossibile ammettere che il loro numero sia minore di quello ora apparso. Ospite. In conclusione, diremo senza scrupoli che il movimento è altro dall'essere e sosterremo vigorosamente la nostra tesi. Teteto, senza timore di nessunissimo genere. Ospite, non se ne ricava forse chiaramente che il movimento non è eppure è, dato appunto che il movimento partecipa all'essere? Teteto, è cosa oltre ogni modo evidente. Ospite, è possibile dunque, e per ineluttabile ragione, che vi sia un non essere non solo in rapporto al movimento, ma anche a tutti quanti i generi. La natura dell'altro, infatti, rendendo ciascuno altro dall'essere, li rende tutti non essere. In conseguenza, e per le stesse ragioni, le universe cose, secondo lo stesso rapporto, diremo giustamente che non sono. Ma anche altrettanto giustamente potremmo dire che partecipando dell'essere, le universe cose non soltanto sono, ma anche si possono chiamare enti. Teteto, proprio così direi. Ospite, perciò concludendo, in ciascuna delle specie apparte molta l'essere, ma indefinito nella sua quantità è pure il non essere. Teteto, naturale. Ospite, e non si avrà forse per conseguenza che anche l'essere per suo conto sarà altro dai rimanenti generi? Teteto, necessariamente. Ospite, concludendo allora, anche l'essere, quanti sono gli altri generi, per un numero uguale di volte, anche l'essere non è. In realtà, siccome l'essere non è questi generi, per conto suo rimane quell'unico genere che è. Invece, illimitati di numero, gli altri generi alla loro volta non sono. Teteto, una cosa di questo genere. Ospite, del resto tutto ciò non ci deve lasciar sospettosi, seppur è vero che la natura stessa dei generi ammette questo processo di reciproca partecipazione, e se vi è qualcuno che non vuol concedere che l'essere non è, deve prima attirare alla sua tesi le nostre premesse. E così pure in un momento successivo dovrà attirare anche le conseguenze che dalle prime derivano. Teteto, hai detto in maniera giustissima. Ospite, vediamo quale sia il seguente punto. Teteto, quale? Ospite, ogni volta che pronunciamo la frase non essere, come pare evidente, non diciamo cosa contraria all'essere, bensì soltanto cosa diversa dall'essere. Come? Per esempio, diciamo che qualche cosa è non grande. Ti pare che con questa frase si voglia significare il piccolo oppur l'eguale? Teteto, e come? Quando dunque ci si viene a dire che la negazione vuol significare cosa contraria, non daremo il nostro assenso, e soltanto una cosa concederemo. L'avverbio negativo preposto indica soltanto cosa altra dai nomi che alla negazione stessa susseguono. O più esattamente, cosa altra da ciò a cui si riferiscono i nomi pronunciati dopo l'avverbio di negazione? Non c'è dubbio. Ma ancora un fatto dobbiamo tener presente, se anche tu sei della stessa opinione. Quale fatto? L'altro, nella costituzione sua oggettiva, è come la scienza, diviso quasi in minute parti. Come? Si capisce. Unica è la scienza, ma ciascuna sua parte, trovandosi a trattare di singoli argomenti, limitata com'è, assume una denominazione particolare. Perciò, si dice, vi sono molte arti e molte scienze, indubbiamente. In conclusione, anche le parti dell'altro, la cui caratteristica è unica, presentano uguale aspetto. Forse, ma non sarebbe meglio dirne il modo? Vi è una parte dell'altro che sia antitetica al bello? Te, Teto, c'è, ospite, e questa parte, diremo noi, è senza nome oppure un certo nome lo ha? Lo ha, adoperiamo infatti la frase non bello, la quale indica altro dalla natura oggettiva del bello, non certo altro da qualche diversa idea. Ebbene, dimmi un po' questa seguente cosa. Quale? Il non bello è precisamente una cosa che si distingue e si distacca da un certo genere determinato e che si contrappone a un'altra cosa. Te, Teto, così. È evidente dunque che il non bello costituisce contrapposizione d'essere ad essere. Te, Teto, giustissimo. Senti, secondo questa conclusione, diresti che il bello è più essere e il non bello lo è meno? Te, Teto, per nulla. E alla stessa guisa si dovrà dire che il non grande e il grande, considerati come pure idee, egualmente sono. Te, Teto, egualmente. E non si dovrà forse concludere che anche il non giusto, alla stessa guisa del giusto, ha in sé essere, e il secondo non certo in misura superiore al primo. Certo, e altri casi andranno risolti in egual modo, dato che abbiamo potuto riscontrare nel novero degli enti la natura oggettiva dell'altro. E una volta che tale idea in se stessa c'è, ne viene ineluttabile conseguenza che si debba, non meno che ad altre cose, attribuire l'essere alle parti di quella idea. Te, Teto, come no? Se ne ricava la conseguenza che quando si mette l'idea dell'altro di contro a quella dell'essere, ciò che si contrappone risulta avere altrettanto essere, seppur si può dire, esattamente quanto ne ha l'essere stesso. E non vuol significare qualche cosa d'opposto all'essere, soltanto questo significa altra cosa dall'essere. Te, Teto, sì, è molto chiaro. Ospite, e con quale nome allora la dovremo chiamare? Evidente, abbiamo trovato appunto quel non essere che andavamo cercando per causa del sofista. Ospite, ricaviamo allora le conseguenze. Intanto, in questo non essere, come hai detto, non si trova meno essere che in qualsiasi altra idea. Dovremmo avere anzi il coraggio di proclamare che il non essere, come obietto, ha una propria particolare caratteristica. A quella guisa che il grande è grande, il bello è bello, il non grande non grande e il non bello non bello, così anche il non essere, per lo stesso rapporto, ci è apparso e ci appare ancora non essere, singola specie particolare, nel novero delle innumerevoli specie che pur sono. Oppure, te, Teto, rimane in noi un po' di incertezza sulla risoluzione di questo problema? Te, Teto, nessuna incertezza. Ospite, e non vedi allora? Abbiamo disobbedito a Parmenide e oltrepassati di molto i limiti del suo divieto. Te, Teto, perché? Egli aveva posto un limite alla ricerca e noi l'abbiamo violato con la nostra indagine, questo limite. Siamo penetrati troppo profondamente argomentando contro il nostro maestro. Come? Vedi, egli dice, me ne ricordo bene, non costringere mai, bada, non enti ad essere, mai, evita cercando questo sentiero, sia lungi il pensiero. Te, Teto, certo, dice proprio così, ospite, e noi precisamente Non solo dimostrammo che il non essere è, ma abbiamo posto anche in luce quale sia del non essere la singola specie. In realtà abbiamo dimostrato che nella ideale natura l'altro non solo esiste, ma è anche frazionato per piccolissime particelle in tutte le idee nella loro reciprocità di rapporti, e abbiamo avuto anzi il coraggio di dire che le singole parti dell'altro nella sua oggettività poste in antitesi rispetto all'essere, ebbene, queste parti appunto costituiscono il non essere. Teteto, e compiutamente, amico uomo di lontane terre, abbiamo, così mi pare, concluso secondo verità. Ospite, adesso non dobbiamo temere il rimprovero di nessuno. Se, pur ammettendo un non essere contrario all'essere, abbiamo il coraggio di affermare che il non essere è. Del resto, abbiamo rinunciato da un pezzo a trattare circa un preciso contrario dell'essere, tanto se ne sia possibile l'esistenza, quanto nel caso contrario, tanto se abbia una razionalità, quanto se sia totalmente irrazionale. In quanto poi alla definizione ora data di non essere, sono possibili due casi. O l'avversario ci potrà persuadere con opportuna confutazione che abbiamo commesso errore, ovvero sia, finché non sarà in grado di far questo, anche il nostro avversario deve necessariamente ripetere la nostra conclusione. Deve dire, cioè, che i generi reciprocamente vengono commisti. Deve dire che l'essere e l'altro sono interfusi in tutti i generi, in tutte le specie, fra loro stessi. Deve dire che l'altro, pur avendo una partecipazione con l'essere, per questa partecipazione non certo è quel genere di cui ha partecipazione, cioè l'essere, bensì un altro genere. Deve dire che il genere altro, essendo altro dall'essere, per ragione del tutto manifesta e ineluttabile, è non essere. Ma dovrà dire ancora questo nostro avversario che l'essere, avendo avuto partecipazione a sua volta con l'altro, sarà pure altro in confronto ai rimanenti generi. Dovrà dire che essendo altro in confronto a tutti, nemmeno singolarmente sarà ciascuno di questi, come pure non è tutti i rimanenti generi nella loro totalità, ma soltanto è se stesso. La conseguenza, credo, è evidente, senza possibilità di discussione. L'essere, innumerevoli volte, per innumerevoli casi, non è. E le rimanenti idee singolarmente, alla stessa guisa e nella loro totalità, per molteplici rispetti sono, ma per molteplici rispetti pure non sono. Vero? A questo processo antitetico dei contrari si può non prestar fede, ma allora si deve ulteriormente indagare e quindi proporre qualche diversa conclusione in qualche modo migliore di quelle proposte. Del resto, qualcuno è convinto d'aver scoperto difficili cose quando può trascinarne inutilmente la discussione ora in un senso, ora in un altro. Impresa non molto fruttuosa, come dimostra la parte già trattata. Oh, trovare obiezioni continue non dimostra certo vivacità di ingegno e non è nemmeno una cosa assai difficile. C'è un'altra cosa invece difficile insieme e bella. Quale? Ne ho già fatto cenno. Lasciar da parte questi argomenti suscettivi d'una possibilità qualsiasi. Mettersi in condizione di poter tener dietro con giusta critica gli argomenti di cui si sta trattando. E quando si afferma che una cosa altra è in certo senso medesima, che una cosa medesima è tuttavia altra, ebbene si deve comprendere il modo e il particolare rapporto che spiega l'esistenza dell'una e dell'altra condizione. Al contrario, invece, proporsi di dimostrare che senza alcuna riserva, il medesimo è altro, e l'altro è medesimo, il grande è piccolo, il simile dissimile, prendersi il gusto di mettere avanti simili opposizioni, sta pur sicuro, con questo metodo non si fa una vera critica, si dimostra soltanto d'aver appena cominciato a sfiorare qualche problema sull'essere. Teteto, sicuro. Ospite. D'altra parte, caro il mio figliolo, questo tentativo di separare tutto da tutto non solo è vera e propria stonatura, ma anche senz'altro dimostra un ingegno nemico alle muse e destituito d'ogni attitudine alla filosofia. Perché? Perché quando si cerca di isolare ogni singola idea da quel tutto che la contiene, si finisce per annientare completamente la parola. È l'intreccio, infatti, delle idee che produce per noi ogni parola. Vero? Allora osserva con quanto senso d'opportunità in questo momento ci opponiamo a simili avversari e li costringiamo a concedere questa partecipazione di una idea con l'altra. Perché opportunità? Perché anche parola sia per noi uno dei generi dell'essere. Vedi? Lasciarci privare di tale strumento sarebbe danno irreparabile. Privi saremmo di filosofia. Inoltre, sull'istante dobbiamo metterci d'accordo per una definizione di parola. Se ci si toglie questo dono, affermando che parola del tutto non è, sta pur sicuro, non saremo più in grado di esprimere ragione su qualsiasi cosa. E ci si toglierebbe questo dono. Se ammettessimo appunto che non vi è nessuna partecipazione per nessuna cosa con nessun'altra cosa. Teteto, sì, è molto giusto, ma non ho capito per qual motivo proprio ora dobbiamo stabilire la definizione di parola. Ospite, vien dietro da questa parte, facilmente comprenderai. Teteto, per dove? Ospite, vedi? Abbiamo scoperto che il non essere ha una sua particolare fisionomia tra i tanti generi, interfuso e disseminato fra tutti gli enti. Così, in conseguenza, ora bisogna vedere se il non essere sia commisto all'opinione e ad ogni parola congegnata nel discorso. Teteto, perché? Ospite, se non fosse commisto a discorso e ad opinione, ne seguirebbe inevitabilmente che tutti, opinioni e discorsi, sarebbero veri. La commistione invece di non essere porta seco opinione errata e così pure errata parola. In realtà, l'errore che si può incontrare nel pensiero e nella parola nulla è più se non opinione o espressione di ciò che non è. Teteto, così. Ospite, e invece. Ammessa parola o pensiero errato, esiste anche l'inganno. Sì, ma esistendo l'inganno, ineluttabilmente tutto è pieno di simulacri, di immagini, di apparenze. Come no? D'altra parte, si disse che il sofista indubbiamente s'era rifugiato in questo luogo. Si diceva pure che egli negava risolutamente esistenza di errore o di falsità. Perché il non essere, appunto, né si può pensare né di lui si può fare argomento di parola. Tale non essere, infatti, non partecipa per nessun modo in nulla con l'essere. Teteto, erano infatti queste le sue conclusioni. Ospite, ora invece, anche il non essere ci si rivela partecipante all'essere, e su questo punto. Non dovrebbe più rimanere per il sofista argomento di contrasto. Ma forse il nostro uomo potrebbe dire che vi sono specie che col non essere hanno partecipazione, altre invece no, che appunto parola e opinione non presentano questa caratteristica. La conseguenza? Non vi è affatto l'arte fattrice di simulacri e d'apparenze nella quale il nostro uomo si disse dimora. Quale grossa battaglia attaccherebbe il nostro uomo su questo punto, visto che opinione e parola non hanno partecipazione alcuna col non essere e che, se non sussiste questa partecipazione, non vi è assolutamente possibilità di errore? Per queste ragioni si tratta di cercare cosa siano opinioni e apparenza, affinché, una volta posto in luce il problema, ne possiamo scorgere anche la partecipazione col non essere. Vista la quale potremo dimostrare l'esistenza dell'errore. Compiuta questa dimostrazione, con saldi vincoli legheremo finalmente il sofista, nel caso che il nostro uomo ci sembri degno di questa condanna. In caso contrario, lo scioglieremo e andremo a cercarlo in altro genere. Teteto, oh, è proprio vera, amico nostro di lontane terre, la sentenza affermata con le prime parole. Qual razza difficile da prendere! Davvero, innumeri le difese di cui si cinge! Problemi e astrusità di ogni genere! Se ne mette sempre davanti qualcuno! E prima di giungere da lui, bisogna sorpassare, combattendo prima, il baluardo! Ora, a gran fatica, abbiamo liquidato il baluardo del non essere che non è. Ed ecco un altro problema. Anche di questo egli si è cinto. Bisogna dunque dimostrare che vi è possibilità di errore anche per parola e per opinioni. E non è escluso che successivamente ce ne sia un altro, e altro ancora dopo. Un limite, potremmo dire, non apparirà mai. Ospite, coraggio, Teeteto! Così deve pensare chi ha possibilità, sia pur piccola, si procedere avanti. Se ci si disanima per queste prime difficoltà, cosa dovremo fare in più gravi momenti? Certo a nulla approderà il nostro sforzo, o persino saremo respinti indietro. C'è un proverbio in proposito: non la prende una città, in tal modo chi farà. E ora, mio buon figliolo, siccome la dimostrazione alla quale accennavi è già perfetta, potremo dire d'aver conquistato il muro più grande. Il resto ormai è più facile cosa e di minor conto. Teeteto, hai detto molto bene. Ospite, allora intanto prendiamo parola raccolta in discorsi e opinione. In tal modo potremo con maggior chiarezza fornire giusto computo e vedere se il non essere ha partecipazione con l'uno e con l'altra, oppure se assolutamente ambedue sono veri, e quindi l'uno e l'altra mai suscettivi d'errore. Teeteto, va bene. Esaminiamo le parole secondo lo stesso sistema delle specie e delle lettere. La risoluzione del nostro problema ci apparirà per questa via. Teeteto, e quanto alle parole, cosa dobbiamo considerare? Ospite, se ogni parola s'adatta con qualsiasi altra, se nessuna s'adatta, se alcune parole ammettono questo processo, altre invece non lo ammettono. Oh, ma questo è evidente, alcune lo ammettono, altre no. Forse pressappoco vuoi dire che talune parole s'adattano reciprocamente, quando, messe una dopo l'altra, significano qualche cosa. Quelle invece che una vicina all'altra nulla significano, non ammettono azione reciproca. Teeteto, come hai detto, perché questo? Ospite, perché mi pareva che, dandomi l'assenso, tu fossi d'accordo con me. Sai bene che per duplice segno si concede con la voce esprimere ciò che si contiene nell'idea. Teeteto, come? Ospite, un segno si chiama nome, l'altro verbo. Teeteto, dimmi dell'uno e dell'altro. Ospite, quella parola con cui esprimiamo e manifestiamo le azioni si chiama verbo. Sì, si chiama invece nome quel segno della voce col quale distinguiamo chi fa quelle azioni. Teeteto, indiscutibilmente. Ospite, dunque, da nomi soltanto, espressi di seguito l'uno all'altro, non deriva mai un discorso. Come pure nemmeno se si pronunciano verbi separatamente dai nomi. Teeteto, questa non l'ho capita. Ospite, è evidente che mi davi il tuo consenso poco fa, ma che avevi invece un diverso pensiero. In realtà, intendevo dire appunto questo. Tali parole, anche se espresse una di seguito all'altra, non danno un discorso. Come? Per esempio, cammina, corre, dorme. E gli altri verbi, quanti possono significare un'azione? Ebbene, anche se vengono espressi uno in fila all'altro, non per questo motivo se ne produce un discorso. Teeteto, sì, ma come sarebbe possibile? Ospite, ma anche reciprocamente, quando si dice leone, cervo, cavallo, e quando si sono pronunciati tutti i nomi per significare chi fa le singole azioni. Ebbene, anche da questa serie non sorge per nessun modo alcun discorso. Queste parole le puoi pronunciare con quell'ordine che vuoi, ma non vengono a significare né azione né il suo contrario, nemmeno indicano il contenuto di nessun discorso negativo o positivo. Perché vi sia questo, bisogna mischiar nomi con verbi, E allora soltanto sorge possibilità di un reciproco adattamento. Subito questo primo intreccio diventa discorso, direi quasi il primo e il più piccolo di tutti. Te, Teto, ma in che senso affermi questo? Ospite, quando si dice uomo impara, non dici che è un discorso brevissimo, una proposizione elementare? Sì, certo. Si manifesta infatti qualche cosa di ciò che è, oppur di ciò che diviene, o è divenuto o dovrà avvenire. E non soltanto si esprime un enunciato, ma intrecciando insieme verbi con nomi se ne ricava anche una certa conclusione. Per questo motivo si disse che non soltanto quella persona pronuncia una serie di parole, ma che veramente discorre esprimendo un giudizio. E appunto perciò a tale intreccio diamo il nome di discorso. Teteto, giusto? Ospite, così appunto. Come parte delle lettere reciprocamente e opportunamente si congiungono, parte invece no, così anche i segni della voce, cioè le parole, taluni opportunamente si congiungono e producono il discorso, altri invece non si congiungono, teteto, indubbiamente. Ospite, già, ma c'è ancora una piccola cosa. Quale? È inevitabile che un discorso, quando è tale, sia discorso di qualche cosa. Non esiste un discorso di nulla. Così. E il discorso non deve presentare una certa sua qualità. Come no? Qui bisogna star molto attenti. Sì, bisogna. Ti dirò allora un discorso per mezzo di nomi e di verbi, copulando insieme cose con azioni. E tu dimmi a proposito di chi ha pronunciato questo discorso. Teteto, cercherò per quanto posso. Ospite, Teteto se ne sta seduto. Non sarà mica un discorso lungo. Teteto, no, un discorso di giusta misura. Ospite, è tuo compito ora indicare su chi sia e su quale argomento. Teteto, oh, è chiaro, su me e su qualcosa che mi appartiene. Ospite, e questo seguente ancora cos'è? Teteto, quale? Ospite, Teteto, con cui in questo momento parlo, vola. Teteto, nessuno potrebbe dire che anche questo non sia su cose che mi appartengono e a me relative. Ospite, ma si concluse che, per ineluttabile ragione, ciascun discorso deve avere una certa sua qualità. Sì, e dovremo certo dire che ciascuno di questi discorsi presenta una certa qualità. Ti pare? Teteto, uno è errato, l'altro vero. Ospite, e quello vero afferma di te le cose come sono. Teteto, certo. Ospite, invece il discorso errato, diverse da quelle che sono. Teteto, sì. Ospite, e quelle che non sono, le afferma come cose che sono. Teteto, un fatto di questo genere. Ospite, e sul tuo conto afferma come veramente fossero cose diverse da quelle che sono. In realtà abbiamo detto, sul conto di ciascuna cosa, vi sono molte cose che sono e molte che non sono. Teteto, sì, certo, ospite, veniamo a noi. L'ultimo discorso da me pronunciato sul tuo conto, ammessa la definizione proposta, intanto è indubitabilmente uno dei più brevi che si possano fare. Teteto, sì, in questo senso ci siamo messi ora d'accordo. Ospite, in secondo luogo deve riferirsi a qualcuno. Teteto, così. Ospite, e se non ha relazione con te, non può essere nemmeno riferita ad alcun altro. Teteto, come sarebbe altrimenti? Ospite, e se non si riferisce a nessuno, non sarà nemmeno assolutamente un discorso. Abbiamo dimostrato infatti impossibile un discorso di nulla. Teteto, giustissimo. Ospite, e le parole pronunciate sul tuo conto applicano predicati diversi quasi fossero uguali. E ciò che non è, come se davvero fosse. Ebbene, questa operazione che combina nomi con verbi dà origine veramente e realmente al discorso errato. Teteto, è verissima conclusione. Ospite, ma senti questo allora. Non è forse chiaro ormai che pensiero, opinione, immaginazione possono sorgere nelle anime nostre tanto quale errore quanto come verità? Teteto, in che senso? Così capirai meglio. Cerca di cogliere cosa sia ciascuno di questi atti e così pure la reciproca differenza. Dammi modo di capire. Intanto, pensiero e discorso sono la stessa cosa. Unica differenza, l'unico è colloquio che senza voce si svolge dentro l'anima, seco stessa favellante, e si chiama appunto pensiero. Indubbiamente, si chiama invece discorso quel flusso che dall'anima si diparte e attraverso le labbra procede. Vero? E tuttavia sappiamo che viene il discorso. Che cosa? Affermazione e negazione. Certo, sappiamo. Quando questo processo avviene nell'anima sotto forma cogitativa e in silenzio, l'unico nome adatto è opinione. L'unico, sì. E quando invece non si svolge per se stesso, ma ne sia tramite la sensazione, l'unico nome esatto è appunto immaginazione. L'unico, sì. Insomma, ammesso che il discorso è vero oppur falso, ammesso che il pensiero dell'uno e dell'altro è una conversazione dell'anima con se stessa, che opinione dà completamento all'atto del pensiero, che immaginazione è commischianza di sensazione e di opinione, siccome tutti questi diversi atti della nostra mente vengono a trovarsi affini al discorso, ne segue ineluttabile conseguenza che taluni talvolta sono anche errati. Come no? E non t'accorgi dunque? Opinione errata e discorso errato furono scoperti inaspettatamente, assai prima di quanto si temeva poco fa. Era nostra preoccupazione di intraprendere opera totalmente infruttuosa iniziando nella ricerca. Ma accorgo bene. In conseguenza, non bisogna scoraggiarsi nemmeno per il resto. Insomma, una volta risolto il problema, rivolgiamo alla nostra mente alle divisioni per specie di cui poco fa trattavamo. Teto, e quali sono? Ospite, abbiamo diviso due specie nell'arte di produrre una copia, una per l'arte che la produce effettivamente e una per l'arte che produce solo parvenze. Sì. Ed eravamo, si disse, incerti a quale delle due si dovesse ascrivere il sofista. Era proprio così. Mentre ci trovavamo in tali difficoltà, tenebra più grande e vertigine ci avvolsero. Ecco apparire argomento che, contro la sentenza di tutti, affermava non esistenza così di parvenza come di copia, in quanto per nessun modo, per nessun momento, per nessun luogo esiste l'errore e il falso. È proprio vero. Ora invece, dal momento che abbiamo scoperto discorso falso e con lui falsa opinione, ci si concede l'esistenza di copie imitanti gli esseri, l'esistenza di un'arte illusoria che procede appunto da questa condizione. Ci si concede. Ma eravamo d'accordo precedentemente che il sofista era o l'una o l'altra delle due specie. Sì. Allora di nuovo, iniziamo la nostra ricerca. Separiamo in due il genere che ne viene offerto e, tenendoci aderenti a ciò che ha relazione col sofista, continuiamo a procedere verso la parte destra dei singoli elementi. Toglieremo via così tutte le caratteristiche comuni ad altre specie, fino al punto in cui, rimanendo con la caratteristica individuale del nostro personaggio, potremo vederla noi per conto nostro intanto e, in secondo luogo, anche quanti per tendenza sono più vicini a questo metodo di indagine. Teto, giusto? Ospite, e non abbiamo iniziato distinguendo un'arte che produce e una d'acquisto? Sì. E il nostro uomo non ci pareva forse di intravederlo nelle zone d'acquisto, cioè nella caccia, nella lotta, nella mercatura e in altre somiglianti specie? Senza dubbio. Ora, siccome l'arte mimetica ha in sé accolto il nostro uomo, è chiaro, si tratta anche di dividere in due la stessa arte di produzione. Chi imita segue in realtà un tipo di produzione, senza dubbio di copia o di immagine, non certo dei singoli veri e propri enti, non ti pare? Indubbiamente. E allora, due siano le parti. Quali? Produzione umana e produzione divina. Teto, non ho ancora capito bene. Ospite. L'arte di produzione, seppur ricordi le conclusioni iniziali, è, si disse, nella sua totalità, una potenza suscettiva di diventar causa, cioè perché quanto non era prima cominciasse, in un successivo momento, il processo della sua esistenza. Teto, ricordiamo, ospite, ebbene, tutti gli animali il cui ciclo di vita per morte è concluso, e inoltre le piante prodotte da semi, oppure le piante provenienti da radici, tutti i corpi inanimati che nel seno della terra vengono formandosi, corpi suscettivi o no di fusione, non vorremmo certo dire che prima non erano, ma che poi in successivo momento cominciano il processo del loro divenire per causa diversa da Dio, il quale come artefice li viene creando. O piuttosto, secondo l'opinione e l'affermazione di molti, diremo cosa? Che la natura stessa è atta a generare sotto l'azione di qualche causa spontanea, atta a produrre senza intelligenza. O non diremo piuttosto che natura genera per influsso di ragione e di scienza divina proveniente da Dio. Teto, oh, i miei anni sono pochi e così l'una e l'altra teoria vado spesso alternando. Ora, in ogni modo, volgo lo sguardo a te e supponendo che tu creda divina opera codesta, accedo senz'altro a questa opinione. Ospite, sì e va bene, o te, Teto. D'altra parte, se io ti ritenessi una di quelle nature che col tempo mutano facilmente opinione, in questo momento, parlando con te e valendomi di sicuri argomenti, tenterei di ottenere il tuo assenso. Ma conosco bene la tua natura e so che, anche senza le mie prove, da sé sola procede verso le giuste conclusioni, quelle che, lo dici tu, ora ti attraggono. Insomma, lascerò stare. Sarebbe tempo buttato via, quindi concluderemo senz'altro. I fenomeni che, si afferma, provengono da natura sono prodotti appunto di una divina arte. Al contrario, le opere che gli uomini producono, valendosi dei preesistenti fatti naturali, sono il risultato di un'arte umana. In conseguenza, secondo questo ragionamento, vi sono pure due generi d'arte di produzione, e l'uno è umano, l'altro divino. Teto, va bene. Ospite, taglia ciascuna delle due sezioni in due parti ancora. Te, Teto, come? Ospite, prima tagliavi l'arte di produzione tutta quanta nel senso della larghezza, ora invece dividila nel senso della lunghezza. Te, Teto, il taglio è già fatto. Ospite, ne risultano precisamente quattro parti in tutto, due in rapporto a noi, umane, e due pure in rapporto agli dèi, divine. Te, Teto, sì. Ospite, abbiamo effettivamente compiuto divisione con criterio diverso dal precedente. E una parte in ciascuna delle due sezioni, divina e umana, contiene l'arte che produce veramente le cose. Le altre due parti rimanenti si potrebbero dire senza dubbio arti produttrici di copie e immagini. In questo modo l'arte produttrice viene di nuovo scissa ulteriormente in due parti. Te, Teto, dimmi un'altra volta dell'uno e dell'altro tipo di produzione. Ospite, noi intanto, non c'è dubbio, tutto ciò che vive gli elementi materiali, aria, acqua, simili altri elementi, sono costituite le cose che si producono nel mondo. Oh, lo sappiamo bene tutti. Nella nostra singola individualità siamo stati prodotti quale creature di Dio, o come credi? Te, Teto, così. Ospite, d'altra parte a queste singole creature si accompagnano immagini che non sono le creature stesse, ma ne sono l'ombra, prodotte pur sempre da soprannaturale artificio. Te, Teto, quali ombre? Ospite, fantasmi e visioni di sogni e apparenze diurne che si dicono naturali. Per esempio, l'ombra che si produce quando nel raggio luminoso si interponga un opaco oscuro, così pure quando un duplice raggio di luce, quello proprio e quello estraneo, coincidendo su superfici luminose levigate, produce nello specchio una immagine, causa di sensazioni inverse a quella abituale. Teto, sono dunque due tali opere di divina produzione, la cosa vera e propria e l'immagine o il fantasma che ciascuna cosa accompagna. Ospite, e quali le condizioni di un'arte umana? Non diremo forse che con l'architettura si produce una casa, con la pittura invece se ne produce un'altra? Una certa casa che è quasi un sogno, congegnata da umana cura per gente che poi effettivamente non dorme? Teto, certamente. Ospite, insomma, ogni opera nostra di produzione per lo stesso modo è duplice, secondo queste due parti. Una, ripetiamo, la cosa vera e propria, un'altra, la copia e l'immagine. Teteto, oh, adesso sì, ho capito. Pongo senz'altro in doppio modo due specie per l'arte di produzione, e in un senso l'arte divina, in un altro l'arte umana, così pure, in un altro senso, una parte dedicata a ciò che è veramente, l'altra invece alla produzione delle copie e delle similitudini. Ospite, dobbiamo ricordare ancora che l'arte di produrre una copia contiene, si disse, le due specie minori, specie che produce effettivamente questa copia, specie che produce parvenze. Ciò sarebbe avvenuto soltanto se l'errore fosse veramente errore la cui natura poi si dimostrasse partecipante all'essere. Teteto, già, proprio così. Ospite, e abbiamo veduto che l'errore è tale effettivamente. Per questo motivo potremo stabilire senza esitare le due specie indipendenti. Teteto, sì. E allora quell'arte suscettiva di produrre mere parvenze un'altra volta, dividiamola pure in due. Come? Una parte si compie per mezzo di strumenti, un'altra invece, in quanto la persona di chi produce la mera parvenza, offre se stesso quale strumento. Come dici? Quando, credo io, c'è chi si vale del proprio corpo per rappresentare una imitazione della tua figura, o si vale della propria voce per imitare la tua. In tal caso non c'è dubbio, questa sezione dell'arte produttrice di parvenze è stata chiamata arte mimica. Chiamiamo dunque questa sezione mimetica e con questo nome distinguiamola dall'altra. L'altra invece abbandoniamola pure. Certo, un po' di pigrizia è la nostra, ma lasciamo ad altri l'incarico di raccoglierne, nell'unità della specie, le singole attitudini e attribuire poi alla specie un conveniente appellativo. Teteto, distinguiamola pure. L'altra sezione è abbandonata. Ospite, ma, caro Teteto, anche questo prodotto è duplice, come tale deve essere considerato, e il motivo lo puoi osservare. Parla. Di queste persone che imitano, ve ne sono talune che per conoscenza procedono a questa imitazione, altri invece agiscono senza sapere. In ogni modo, quale criterio di divisione è più grande dell'ignoranza e della conoscenza? Teteto, nessuno. Ospite, e nell'esempio che ti ho dato, non c'era forse una imitazione di persone che sanno? Solo ti puoi imitare chi conosca la tua figura e il tuo carattere. Teteto, come no? Ospite, e cosa si può dire per la giustizia? Per quello che ne è l'aspetto e il comportamento? In una parola, per la virtù tutta quanta. Certo, molti non conoscono affatto l'aspetto della virtù, ma se ne formano, non saprei come, una certa opinione. E tentano tutti i modi perché poi si creda che posseggono reale presenza di ciò che è invece semplice congettura. Ed ecco, ricorrono più che possono a imitazioni per mezzo di parole e di atteggiamenti. Teteto, sì, e molti davvero. Ospite, e credi che questo tentativo di sembrar giusti senza esserlo riesca male per tutti? Oppure avviene né più né meno che il contrario? Teteto, tutto il contrario. Ospite, dobbiamo allora dire che quest'ultimo è mimeta, imitatore cioè, diverso dall'altro, e in quanto non sa, assai diverso da chi sa. Teteto, sì. Ospite, e donde potremo trovare un nome conveniente per l'uno e per l'altro tipo? Oppure una cosa è chiara, la difficoltà non è piccola. Direi, vedi, che i nostri vecchi abbiano avuto inveterata e inconsiderata pigrizia per quest'arte, tanto da non pensare alla divisione dei generi e delle specie. E una conseguenza necessaria è è che non abbiamo nemmeno grande ricchezza di parole. In ogni modo, sarà un'espressione alquanto ardita, ma per poter distinguere bene i due casi, chiameremo l'imitazione cui accompagna l'opinione opinimitazione. L'altra, invece, cui si accompagna una cognizione esatta della cosa, la chiameremo mimetica scientifica. Te, Teto, sia pure. Ospite, in ogni modo faremo uso della prima sezione. Il sofista in realtà non appartiene al novero di chissà, pur essendo tra quelli che operano imitazione. Te, Teto, indubbiamente. Ospite, allora osserva bene l'opinimitatore, quasi fosse un pezzo di ferro, e guarda se la massa è unica oppure se nasconde in sé qualche germinazione. Te, Teto, guardiamo pure. Ospite, e sì che ce l'ha, è ben segnata. Questo opinimitatore è di due tipi. Il primo è un povero diavolo convinto di saper davvero ciò che forma la sua opinione. Il secondo, invece, quale conseguenza di quel suo continuo rotolare d'uno in altro argomento, finisce per sentirsi poco sicuro e pieno d'apprensione, conscio com'è di non sapere gli argomenti sui quali recita di fronte agli altri la parte dell'uomo esperto e sapiente. Te, Teto, non c'è dubbio, esiste veramente l'una e l'altra specie di cui hai detto. Ospite, già, e allora l'uno lo chiameremo semplice imitatore, l'altro invece imitatore dissimulante. Te, Teto, è probabile appellativo. Ospite, e il genere di quest'ultimo dobbiamo dirlo unico o duplice? Boh, guarda tu. Ospite, sto guardando e mi si scoprono due tipi diversi. Questo imitatore dissimulante lo vedo in quanto capace di darla a bere nelle pubbliche riunioni con lunghi discorsi alle folle, e lo vedo d'altra parte nella vita privata. Con brevi discorsi costringe il suo interlocutore a trovarsi in contraddizione con se stesso. Te, Teto, dici benissimo. Ospite, allora come determineremo con parola quel signore dei discorsi molto lunghi? Lo chiameremo uomo politico oppure oratore da comizio? Te, Teto, oratore da comizio. Ospite, e al secondo che nome attribuiremo? Sapiente oppur sofista? Te, Teto, impossibile chiamarlo sapiente. Non abbiamo già concordato ogni cosa? È un uomo che non sa nulla, imitatore del sapiente. Per conseguenza avrà un nome che gli assomiglia. Anzi, ho già capito quasi. Si tratta di chiamare questo personaggio col nome vero e proprio di sofista. Ospite, e non sarà bene come prima saldare la catena? Leghiamo allora questo nome risalendo dalla fine al principio. Te, Teto, bene. Ospite, un tale che appartiene alla sezione dissimulante dell'arte per produrre contraddizione, un tale, imitatore di mera opinione, un opinimitatore, un tale che della specie dell'arte atta a dare origine a parvenze, proveniente dalla produzione di immagini, per mezzo di discorsi, ha preso la sezione deceptiva dell'arte di produzione, umana tuttavia, non divina. Ecco, se dici che da questa stirpe, da questo sangue, proviene il genuino sofista, affermerai un principio del tutto a verità conforme. Te, Teto, indubbiamente, è così.